batteria, boh, se ti fa vedere domani, o se male ci sei lì in via Guardia del Ponte, salgo un 5 minuti e vado là. Se no, boh, aspettiamo. Quanto ci è passato per il display più o meno? Spara, una settimana. No, per la batteria, no, del display è più di una settimana, perché è stato spedito il 6, tanto è vero che il tipo mi ha detto di avere un attimino pazienza, che a volte la posta prioritaria tende a, come si dice, a ritardare, però secondo me se la stanno tentando, perché loro spediscono in posta, anzi non spediscono neanche, ti danno le colpe del fatto che tu hai accettato la posta prioritaria, però io me ne affutto e gli trago un feedback negativo, a me sai quanto mi divertono queste persone. Quindi basta ritirarti al limite comunque sia la batteria, poi il resto non c'è problema, non ti preoccupare. Proprio il display, la batteria mi sono offesso perché la tipa mi ha dato i soldi, gli serve perché la sua è proprio andata, non tiene, in carica si dura, bisogna adesso mezz'ora e si spegne il telefono. No, guardate, domani, adesso no, sono accavati davanti, ho dato due, tre iPhone da mettere a posto, di cui uno lo mette a posto, che cioè tu conta, conta, 70 euro nel display. Arrivo per 30 euro di mano all'opera, ci vuole tempo, calma, perché non è un giocattolo, devi aprire tranquillo, questo qua si tratta di usare un paio di guanti perché non devi toccare i contatti, sto lavorando su YouTube, facciamo vedere un po', no, non lo so perché è troppo adesso. Scusa, ma perché non ti apri, non vi aprite un laboratorio, vi mettete tu, Fabrizio Chirigatto e Pomponio, fate un laboratorio con i fiocchi. Guarda, adesso nel testo che stai cellulare, mi piace troppo, ma troppo. Tanto? Sì. Ma sei sicuro che ci sta Pomponio? Io credo di sì, vabbè, anzi è il più titolato, credo che sia quello che realmente possa, capito, possa fare questa cosa qua. Al limite può fare così, lui può fare il titolare e gli altri due fanno i tiravanchi, capito? Svizzero, lì a, come si dice, a Sassari, alle poste, alle telecomunicazioni, primo piano, e c'è una persona davvero in gamba in quegli uffici. Che un altro tetraplatta un po'. No, negativo, non Rocca, sto parlando di Zucca. Zucca è davvero una persona in gamba, molto gentile, molto, molto affabile. Sì, lo conosco. Sì. Prenderti nuovamente la documentazione per maggio. Cappa di Rogero, però. Però niente. Voglio comunque portare avanti quella cosa, perché io adesso finché non vedo la cosa, non finché non vedo non credo. Quindi per l'ennesima volta ho richiesto, e adesso sono nella condizione davvero di andare per vie legali, di vedere il mio compito, che a tutt'oggi non mi hanno fatto vedere. Stanno procrastinando e questo mi fa capire che hanno qualcosa da nascondere, e adesso vado fino in fondo. Beh, certo, un tuo diritto, sapere e vedere, ci mancherebbe altro. Ma è strano, perché quando è capitato a qualcun altro, negli anni che furono, è stata fatta la richiesta, poi è stata fatta tramite eccezione, quindi magari in terra così più veloce, gliel'hanno documentata subito, in un tuo diritto. Spero che vada a buon fine, perché è giusto così. No, ma se vado per via legale chiedo l'accesso a tutti gli atti, perché è possibile questo, cioè non solo al mio, ma anche a quello degli altri. Quindi io consiglierei a qualcuno di che non si affezioni molto a quel pezzo di carta che hai in mano. Io non c'entro niente, io sono dell'era 1993. Tu immaginati che hanno dato a quello di Olbia il mio primo nominativo provvisorio, io sono del BCR, perché ho tenuto 6 mesi con nominativo, tra l'altro mi avevo fatto anche le QSL e poi ci ho buttato, se lo sapevo le avrei passate a lui. Quindi immaginati tu il giro di casini che c'è. Sì, no, assolutamente. Comunque niente, adesso vediamo, ma perché mi è rimasto un po' la mano in bocca, anche se non vorrei indispettire giù le persone, perché a quanto ho capito la stanno prendendo sul personale, capito? Quindi se dovessi poi riandare a dare l'esame, magari mi mettono in un angolo, lì fermo, secco e pesto, e allora è gente che bisogna fare con le pinze. Se riesci a lavorare per due regali con i sordina, con molta tranquillità, insomma, come sai giocare tu è meglio, perché poi se non vai, che loro avevano ragione, o chiunque avesse ragione a porta, per meglio dire, se l'avevano al dito maledetti, mi ricordo a Gianni di Lune Sole che hanno fatto morire, ma per una battuta molto stupida, perché lui ha molto giocherellone, noi sono a cercherone di tenerlo buono, lui è stato sempre un grande giocherellone, anche 27 eccetera, disse così una parola, allora c'era l'ingegner Tocco che era proprio un cane di quelli a radio ritti, non dire altro, le disse lei una frase, insomma, che l'ha offeso, se non ricordo, ma comunque l'ha offeso, che fosse la legata al dito questo ogni volta che andava a dare l'esame, l'ha debutto per 10 anni, se l'ha tenuto un anno, mi ha detto io devo andare in pensione, non ricordo che frase, mi ha detto io devo andare in pensione, questa è la mia ultima sessione, le faccio un bel regalo, lei questa volta faccia l'esame, oh cazzo, è stato promosso, 10 anni. Vabbè, quantomeno è stato di parola, o meglio, non sarà legata al dito fino alla fine, però ti dico una cosa, io sono pronto, nel momento in cui mi dovessero far vedere il compito, scoprire che mi ricordo male, come si ricorda male anche De Fabrice, non c'è problema, io il giorno dopo telefono alla Giago e gli chiedo scusa a lui, a lei e a tutto l'entourage, non c'è problema, però mi devono ancora spiegare perché tutt'oggi, a distanza di 3 mesi, ancora non hanno tirato fuori questo compito. Ascolta, guarda adesso, così sto innescando. Negativo. Quindi arrabbiati tutti e quindi pian pianino ci metteremo più. Io c'è per Roberto che si è un po' buttato giù e mi sono messo da poco, ma non lo so, vediamo, parlava tra prima invece era proprio ben deciso a fare questa cosa. Vabbè. Va bene signori, io sono entrato dietro la sua porta, sono andato a salutarvi e quindi vi risaluto tutti, me ne vado a cena. E dopodiché vediamo un po' se c'è qualcuno, faccio qualche chiacchiera, altrimenti mi guardo la TV. Saluto Antonio Grobbe, Lugariello, Fabrizio, chiunque fosse in ascolto in agguato, un saluto a tutti da Carlo Spariero, passo in QRT, a tra poi signori, statene bene. Prendo io. Grobbe, così, ciao Carlo, buona cena, ci sentiamo dopo. E adesso sto ancora innescando. Adesso sei perfetto, limpido e recoaro, sei ottimo con voce limpida, nessun rumore dietro, ma non solo, hai un'ottima presenza. Ciao Claudio, buona carica batterie, ben sentito, ci ascoltiamo dopo se coincide. Non mi devi dire, cioè di quella persona non si sa niente. Io continuo a provare, ho fatto anche un giro oggi, attorno che tu sai, però non lo vedo, non ho sentito Domenico che potrebbe essere quello più vicino e quindi darci delle notizie più certe e concrete, però non l'ho telefonato, se è già partito lo chiamo adesso, altrimenti dopo ti faccio sapere. Ti ringrazio di nuovo, rinnovo la buona carica. Avanti Luca per i saluti e a girare per Fabrizio. Allora, stavo seguendo perché basta due secondi, è una bugia, stavate parlando, ecco. Io stavo seguendo un programma. Non lo so che stanno andando via, avanti, ripeti tu, avanti quei saluti, avanti. Claudio stava andando via, salutato e ti ripasso la palla per il finale, dopodiché fai girare Fabrizio. Ma no, poca, dai, non so se ci sono, però ci sono un bel stacco. Mi ha proprio crepato giù le teste dei cellulari, non ho concluso niente. Avanti, Fabio, riprendi tu. E mi aspetto 5 minuti, arrivo. Negativo, non sei riuscito. Avevo sbagliato pulsante, guarda adesso se tutto va bene, quello mi sono tutto a posto, misteri. Non ho fatto niente, muovo da freddo la parete appena acceso, non lo so. Cattivo, c'avevi proprio qualcosa sotto, strano, che è iniziato molto, cioè con un volume molto alto, poi è sceso come è iniziata la modulazione, però ti rimaneva sotto sempre questa specie di dischino, mi sembrava una ventola, ma che non era una ventola. E adesso non c'è, evidentemente stava toccando qualcosa a massa. Vabbè. Ascolta, quindi guarda che ti ho detto che sono gli esami. E infatti stavo dicendo a Claudio, realmente questa qua è la sessione, c'è prima la sessione autunnale che dovrebbe essere prima di Natale e poi c'è quella primaverile che abbiamo fatto noi, primaverile che poi è primaverile estiva e poi c'è di nuovo quella autunnale, sono due a semestre, cioè una a semestre, quindi due all'anno. Comunque dovrebbe, alla fine ti dico la verità, ci siamo distratti perché parlavamo di questa cosa qua e quindi niente, comunque credo che ci sia tutto il tempo di settembre per rifare la domanda e poi vedere un attimino, dai. Nel caso ti dovessi togliere la patente, sappi che me lo prendo io quel nominativo che mi piace. Incontri, bisogna avere gli incontri giusti per avere i nominativi giusti. Bello, è un attimo semplice, no? Sì, assolutamente, no, bello. Adesso non mi ricordo, ma mi hai detto Delta Lima Lima o Delta Delta Lima? IS0 Delta Delta Lima. Caparoggio, no, bello, semplice. Assolutamente, dai. Quindi non sei ancora andato su alte frequenze. Tanto, ma non è meglio il mio, DFB, non ti scorrevo. No, assolutamente sì, ma vabbè, per quelli nuovi rispetto a Citrosolina sicuramente bisogna trovarli, adesso li troverete anche a lui, a un nomignolo. Ma sai che io ti ho se me lo sono segnato, perché ancora non abbiamo parlato, Fabi. Quindi sto se può ascoltando, non è pronto, quindi sono intervenuto di nuovo, scusatemi. Ho messo Delta Lima Lima, ma bisogna che lo correggo. Invece è DDL, DDL, non è così, S0 DDL. Vabbè, sono tutti quelli con la D, sono tutti buoni, S0 DFB, S0 BDB, S0 DCR, poi c'è il BDU, che è quello che gli hai passato il compito tu. Cos'è che è BDU, Grode? Quello che era accanto a me, il Sudonto. Sudonto? Se smetteva la tendenza la faceva la scintilla e metteva fuoco a metà calde. No, vabbè, ma tu hai capito che sei mancino, ce l'avevi dalla parte sua il compito. Sì, l'ho capito. Ma dopo era in gamba, catena tu, non c'è mai niente, che posso fare qualcosa di pure lì, c'è qualcosa del genere, muro. Poi niente, era sempre lì, su qua, lui via, questo scuntru, e vai, vai. Mi ha fregato, guarda, la posizione, ti dico la verità, perché io ho meno 5 gradi all'occhio sinistro, tu eri alla mano sinistra, eri mancino, quindi c'avevi il compito dall'altra parte. E vabbè Fabri, era destino, ma non più di tanto, aspettiamo fino all'ultimo. Ti vedrà, vedrà. No, già lo sai, cioè fossero stati 2 punti, ti sarei messo il cuore in pace e ciccia. Non c'è problema, intanto parliamoci chiaramente, non ho studiato, non meritavo di passare, però come molti altri non meritavano di passare, sai, quando arrivi al meno 0,75 ti tirò di un pochettino il coso, quindi. Tanto? Ehi. Ma tu lo sai a Roberto Quadrato quanto gli hanno fatto? 0,35, non l'hanno fatto passare il compito con 0,35. No, 0,70, cioè sicuramente era 0,25, perché ogni risposta sbagliata è 25 in meno, quindi 25, ancora peggio. Scusa, 0,25, ma si è incazzato nero, ha fatto la stessa cosa che facevo tu, ha chiesto il compito, non so se credo che abbiano fatto vedere a lui, o gli abbia telefonato l'ingegnere, non so, mi stavo raccontando, poi ero in macchina e mezzo ai piedi e quindi non sono un pallone. Però una cosa del genere non esiste, perché se uno va lì e ha un 0,25 meno e ti accorge che ha studiato, quindi ha fatto bene, ma daglielo tranquillamente. Io posso capire un tonturone come questo di Ottana, che è praticamente un camionista, non ha mai avuto modo di studiare, preparazione eccetera, era la settima volta che andava, ha trovato Fabrizio e gli ha dato una mano, ben vengano queste persone, va benissimo. Però dico, Roberto era mesi e mesi che studiava, cioè non puoi fare una cosa del genere, capito? Eccolo. Capa, registrato il break, scusatemi un attimino, un attimino una telefonata, ci sentiamo dopo. Avanti il break, con la buonasera, per me è QRX. Buonasera Grande, ciao Fabrizio, ciao Claudio. Mentre scrivevo una lettera, tanto per cambiare, di casini sindacali, ho sentito finalmente il nominativo. Auguri, auguri, uri, uri. Grazie Salvato, è arrivato, aspettando è arrivato lunedì, gli ho chiamato al telefono, gli ho chiesto se potevano anticiparmelo, mi ha detto guardi, pronto, il suo stato scritto venerdì, mi ha detto, perché venerdì sono pari anche per la Sardegna, ecco, se glielo anticipo dovrei lei, tutti me lo chiedono, non riesco a lavorare, mi manco, lei era malata, io sto facendo, vabbè, ho chiuso il telefono, sono sceso giù per uscire, guardate, invece era dalla cassetta delle poste. Dovevi ritelefonargli e dirgli guardi, la ringrazio per la sua solerzia. Ehi, dovevo dirgli, grazie mille, invece poi arrivate via, vabbè, ho già scritto tutto lunedì, adesso aspettiamo il tempo da aspettare, oppure come mi arriva il cartolino di prova, la limite inizia a fare qualcosa. Cappa, comunque mi confermi Delta Delta Lima? Sì, Delta Delta Lima. Ok, ok. Tosta è trovare però un riduttivo di Delta Delta Lima. Qui Claudio si deve ingegnare, eh? Vabbè, io glielo ho già messo. Devi leccare. che stronzone, guarda. A me me lo messo, devi fare bravo. invece è vero, devi leccare. Fabri, mettone una bomba. Non accetto provocazioni, io cacchio, non accetto provocazioni. Ma tu lo sai che Massimiliano è GUP, è giudice udiente preliminare, lo sai, quindi ci abbiamo il giudice, perciò. Sì, ognuno c'ha il giudice GUP e io. Adesso GUP, ognuno sono un ottimo stato che sta messo oggi. Eppure sono curioso adesso di sentire, devo fare delle prove con quel portatile, non c'è niente mica, volevo vedere se riuscivo a citare qualche ponte per provarlo. Allora qua l'unico ponte che esito è quello di Dinti, che credo che sia si è spento col portato, gli altri manco per le palle sono posti, ma posti e poi sono lontani, capito? Sono lontani, l'R4 mi pare, quello di oggi lo si eccita lo stesso col portato, ma è tutta roba vicino, quindi non c'è problema, capito? Va bene. Dai che mi hanno chiamato già due volte, vi saluto, un abbraccio a tutti, ci sentiamo più tardi se coincide, altrimenti alle prossime. Ci trasciamo alle 30, ci sentiamo dopo. Oh, mi sa tanto bene, già ci sentiamo dopo. Sarai da bravo. Fabri, hai visto? Prima di cena si è scaldato l'appetito, adesso mangia come un diavolo. Lascialo mangiare. Cacchio, mi sto controllando un intendo di essere mio figlio, non gli funziona più, ma ci credi. Ecco, era 6 mesi che non lo usavo, non riuscivo a capire perché. Cacchio, vado a far prendere un piccolino e non funzionava, adesso ho capito il perché. Fabri? Sì. Bambino, lo sai come lo chiamano al casino? No. Lui è BDB, no? E se è vero, BDB. Lo chiama bidone di Buruzza. Allora l'ho visto al bambino. Questo bidone di Buruzza. Delicato. Poi Buruzza. No, ci abbiamo tutte le sigle così. Vado a ridere, beh Marco che è un vecchio sì a livello mondiale, me l'ho messo io, lui è KB, io lo chiamo chilometri di bicicletta. IKB? No, chilo, ecco bravo, KB, chilo, ecco bravo, io lo chiamo chilometri di bicicletta. Di così due giorni ho qua. Non sto toccando le balle, non so le pindacce tu. No, io ho il rotore della direttiva, non veramente bloccato, fortunatamente bloccato 9, ma si è bloccato non so per che cosa, come diceva Fabrizio, quindi. Tra l'altro non ho avuto neanche tempo di salire e vedere un po'. Però stamattina dall'ufficio che c'è a Castelsardo ho messo su Google Earth, ho puntato, non so, insomma, toccano un bagatello e poi insomma sono finire un paio di lavoretti in garage, proprio sul microfono, l'altra cosa che devo cominciare, poi inizio a lavorare sul traricettino quadro, li faccio piccoli, o li faccio tutti in parco di antenne con calma, penso che più fresco si può lavorare e facciamo qualcosa. Iniziamo a fare qualcosa, però aspettiamo col fresco, dai, col fresco. fine uno, se glielo proponi un acquisto, non se ne disfarà. No, no, ci ho provato anche io, inizialmente mi aveva detto non ci sono problemi, poi il figlio che si chiama Gianni come lui lo stesso, c'è cioè nome e cognome del padre, Gianni Junior io lo chiamo, lavora al 118, ha detto che molto probabilmente si prende la patente, non è, allora c'è la porta chiusa a chiave, mi ha detto il figlio, perché la moglie non vuole vedere niente di quella stanza, con tutte le apparecchiature, Gianni ogni tanto apre, le accende, ascolta, ma c'ha delle apparecchiature bellissime, molto belle. Una bella sala radio, una stanza tipo questa, forse un po' più piccola, con delle apparecchiature, molto belle. Non dà niente, assolutamente niente, niente, perché molto probabilmente, non so se quest'anno, ma il prossimo anno, ha detto Gianni che sicuramente si prenderà la patente a licenza, si fa dare nominativo al padre perché ti spetta di diritto, se muore un radioamatore, il figli, figlia o figlio, tutti devono essere figli, possono chiedere per legge il nominativo del padre, capito? Giuravetto, quindi strada impercorribile. No, io se muoio sicuramente il mio nominativo non avrà nessuno, perché mia figlia non ne vuole sapere, non vuole fare niente. Tu non so se tua figlia è appassionata, ma avere un nominativo come il tuo, essere della citrosolina, io non l'avrei mai preso, avrei preso magari essere vero Varecchina. E comunque non ci sarà quel problema, guarda. Non penso proprio. Mi sono fatto un grosso, visto che stavo parlando di DS con Fabrizio poco fa, se fosse stato un DS di dimensioni corpose probabilmente l'avrebbe riutilizzato. E vabbè, non ci scherziamo, ma comunque così e così. Vabbè. Va bene, dai. Dai che ora non andiamo, se no a battuta non vado più. Ci sentiamo dopo, ragazzi. Se ci siete, un abbraccio a tutti e due, saluto anche Antonio. Se c'è ancora Luca e chiunque fosse in ascolto, dai. A più tardi. Comunque Fabrizio, sicuramente è un bellissimo lavoro quello che hai fatto, me lo sto immaginando adesso guardando la piastra di uno di questi microfoni con la piastra aggiuntiva, quindi più larga, con tutte le posizioni dei vari componenti, la sede per la valvola, quindi mi immagino una cosa molto bella come sai fare tu, appassionatissima. Va bene. E ci sentiamo dopo, ciao a tutti. Fabrizio, a te il microfono, vai. Sì, riprendo io. Ok, ci sentiamo dopo, un buon appetito, tanto mi sto battagliando con questo intendo di essere, che mi funziona più adesso, scavare del parlo, però nel frattempo lo sto aprendo. Se adesso è successo qualcosa, sono colpa non ha preso, chissà se a capo gli è successo, casino. Di Fabrizio, una cortesia, ti sembra che io abbia picchi negativi? Guarda un attimino, perché noto che quando non parlo la portante muta è di gran lunga in alto, inizia a parlare e crolla miseramente. Sì, c'è picchi negativi. Vediamo se è così, allora forse dovevo semplicemente ridurre il vantaggio. Così si è sistemato secondo te? Guarda un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, così va bene, adesso sono positivi. Ok. Ok, quindi non devo andare oltre. Conviene abbassarlo, abbasso. Così è troppo basso. Dovrei essere sui 5 watt o poco meno. No, vabbè, quello che non è come di poco fa, arriva lo stesso. Se, come di poco fa quando hai abbassato la prima volta. vabbè, dopo. Vediamo. Così. Ecco qua. Allora può essere così? Guarda un po'. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Prova, prova, prova. Sì, sì, così va bene. Perfetto, perfetto. Cosa che ti vuoi dire? No, io... in quei dios, dimmi un pochettino. C'hai l'R4, gli hai montato? Sì, l'R4. A proposito, ti hanno dato? A me no, a me no. Ho capito, no, perché c'è... una serie di giochi che non riesce più a caricare l'R4 di mia figlia, e quindi stavo pensando, non so, di rifargli il giro di riprogrammazione. Non lo so, riesci che adesso cambio l'antenna e metto l'altra. Così metto, ok, quella della 27, carico. Qui sto uscendo con la solita, con la verticale HF. Perfetto. Allora, provano 2-3, provano 2-3. Adesso cambio antenna. Ok, provano 2-3, 1-2-3, 1-2-3. Facciamo accordo. Ok. Dovremmo essere a posto. Dovremmo essere a posto. È cambiato qualcosa, Fabri? Scusami se ti scoccio. In termini di segnale. Sto uscendo cioè, con quella degli 11-10 metri. Sì, siamo aumentato come 60. C'è poco da fare. Questa è specifica per questi metri. Vabbè. Vediamo un po' di scendere come vantaggio. Scendiamo sotto. Ok. Qui sono sotto i 5. Sono sotto i 5. È cambiato di molto. Beh, non è 40, compiti 50-60. Sì, va benissimo, così lo sfrutto proprio ai minimi termini. Sono con il primissimo LED che dovrebbe corrispondere a 5 watt, a 5 watt. Sono modulati perché con questo microfono aperto in questa maniera arriva oltre 100. Sì, a me si sentiva bene, lui non scopri il resto, sta a posto. Insomma, abbiamo casini di natura contrattuale, forse dovremmo organizzare delle giornate di sciopero o di agitazione, non so, un periodaccio, poi ci si mette anche altre questioni, per cui insomma i rapporti di lavoro vengono un pochettino a volte deteriorati anche per cretinate. Ciccio, comunque il resto non ci pensiamo, intorno al fine settimana ci rilassiamo. Mi fa bene, sto mio contatto qua dentro un casino. Non dimmi tu, chissà che voi hanno fatto. Massimiliano, l'hai sentito? Sì, l'ho sentito anche oggi. Per lavorare. Mi mando un SMS. Vediamo se entra. Oh, eccomi qua, di rientro. Aspetta un attimo che sto cercando. Il piede ogni tanto ti sta scappando, eh? Sì, no, sono io in terra, sto cercando un testistico, aspetta. Vai, fai. Finalmente lo vedo qua. Che film hanno messo. Archimede, Bisese? Che? Indovina. Dimmi chi sei. E tu sei? Yes. L'ultimo passaggio non l'ho sentito. Sono di Nugoro. Chi sei? Indovina. Bella domanda. E sapete se mi conoscevo? Zubizu. Vabbè, dai. Ciao Salvatore, ciao a tutti. Sono io. Ah, già. Fai parlare tuo figlio. Ma mio figlio è dentro che sta guardando il televisore. Ero sempre io. Sempre tu? Cosa avevi? Cosa gli hai messo? Niente, parlo con Geba. Bellino. Prende? Bellino. No, Salvatore, te mi contas. Come ti stai? Abbastanza bene, grazie già. Ben sentito dopo tanto tempo. E tu finito la strapazzata estiva? Sì. Tutto fatto. Adesso abbiamo preso anche il televisore, quello grande. Li abbiamo soddisfatti tutti. Come per dire, guarda, me l'hanno chiesto così tante volte e non abbiamo potuto fare a meno di accontentarli. È così. Ma io sono sempre il parere che una cosa, se quando funziona, deve andare avanti. E invece ci sono sempre delle pretese in più, adesso siamo... abbiamo troppi vizi. Vabbè, non chiamiamo i vizi, oramai stanno facendo parte della, così tanto della, dell'uso quotidiano. Beh, noi l'abbiamo fatto il cambio per motivi di forza maggiore, è successo che 2 anni fa d'estate, dal troppo caldo che c'era, ha fatto puff. No, negativo, io... Vabbè, ho cambiato tutte le posizioni della sala, dei quadri, di tutto. Poi mia moglie ha detto, cosa ne dici se ci mettiamo anche il televisore 42 pollici col 3D, che è un bel bellino, eh? E ho detto, aspetta ancora un po'. Cercando di ponderare di cose, poi sono attaccati i miei figli, dai papà ti prego, non aspettiamo Natale, qua, là, boom, va, la figlia è contenta. Già sono cose belle, sì. Comunque. E comunque, vedi, puoi anche dire di avere la fortuna che l'hai fatta adesso la spesa, che non costano più un'esagerazione come un paio d'anni fa, perché un paio d'anni fa, Gesù Maria, sembrava che ti dovessero dissanguare per prenderla. E non credo che l'abbia pagato un poco, ho pagato 1.000 euro. Che cos'è? Un LED? Un LED 3D della LG. Della LG. Beh, non l'hai pagato poco, anzi, l'hai pagato molto. Che cosa ha di particolare come funzioni? C'è il 3D, poi puoi attaccare un sacco di roba. Ma io non ho ancora studiato tutto perché noi l'abbiamo attaccato e messo in uso subito. E... cosa c'ha? Fa tante cose, tantissime cose, ti puoi scegliere film in 3D, c'hai film in 3D anche praticamente già predisposti, te lo scegli, te lo metti tranquillamente, oppure lo puoi mettere tu, in più le ho preso il lettore anche 3D, quindi posso prendere anche i film, eccetera, eccetera. No, abbiamo visto un film, niente male, come si vede, che se c'era la cosa, non è perché usciva fuori dallo schermo, sembra. begli effetti, begli effetti. Collegato a internet, sì. E si può mettere la tastiera, noi praticamente abbiamo collegato al modem di casa che cioè abbiamo messo il numero dal modem eccetera eccetera. Abbiamo collegato su, anche su internet. Tutto fa, c'è la tastiera, tutto quanto. In più c'ha il telecomando, si disegna il telecomando, l'icona del telecomando, c'ha come computer la freccetta dove tu clicchi sopra il telecomando, ti dà la tastiera e ti scegli il canale da lì. Ho capito. Beh, deve essere una bella macchina. No, noi 2 anni fa quando abbiamo fatto la scelta abbiamo fatto per un plasma. No, il mio è dottor Allegri, è l'ultimo chicchino della regina, troppo innovativo, ci puoi attaccare il tutto, cosa ti posso dire? Però noi lo usiamo come televisore, qualche volta mia figlia ha cercato qualche cosa, però io lo uso come televisore, diciamo, al basso. Le guardo molto Focus, che mi piace tantissimo. Ho scoperto questa cosa, che è una risposta ai tuoi perché. Ti fa, diciamo, ti istruisce in alcune cose, per dire, tagliano le cose in due per vedere come funzionano, ti spiega tutto il funzionamento. Ho capito, ma non è il canale di cosa, di Sky? No, è sempre il digitale terrestre, Focus. È praticamente lo stesso che fa il giornale Focus, capito? Ma così l'hanno fatto vedere per dire, perché in jukebox, anche se lo muovi, il disco non balla. La tagliate due con la mola e ci sono 4 mole che sollevano tutto l'ambaradan e a dischi. Di modo che quando tu lo muovi, muovono le mole, ma il disco non si muove. Ho fatto vedere l'altro giorno una macchina di un detective che praticamente quando veniva seguito, premeva un pulsante e uscivano i fumogeni e faceva perdere le sue tracce. E dove era situato? C'era una bomboletta situata nel sedile del passeggero all'interno e con tutto il meccanismo che andava a finire, un tubo che andava a finire nei gas di scarico, nella marmitta, e quando questo gas praticamente veniva in contatto con la parte più calda della marmitta, che sarebbe il catalizzatore, si formava il fumo. Ha la tua invenzione. queste cose così strane le vedi molto anche su quei canali tematici di Sky, per questo che ti stavo dicendo se era per caso all'interno del buco di Sky. No, io non ne ho Sky, non ne ho mai piazzato perché non me ne hanno parlato molto bene, mi hanno detto che aumentano i canoni, che ti mettono altri spazi che tu non hai chiesto, eccetera, eccetera, quindi non l'ho mai messo in vita. E poi non sono amatore molto delle partite, quindi che mi dessero dei documentari, dei film che interessano a me, sì, ma a partite proprio non mi ha fatto niente. Ma le partite sono proprio il pacchetto calcio, eh. Noi ad esempio abbiamo il cinema, il family, quelli che sono i canali di base, Discovery e quelli per i bambini, Nickelodeon, Disney Channel, insomma tutti quanti quelli lì, il pacchetto sport, bello ad esempio quest'anno era vedere tutte le Olimpiadi che l'hanno trasmesso in alta definizione, No, però aggiunte di pacchetti non richiesti, boh, io la verità che ce l'ho, non mi è mai capitata una cosa del genere. La bellezza è che oramai hai praticamente tutti i canali, quasi tutti i canali che sono trasmessi in alta definizione, quindi se hai una TV come quella che c'hai tu adesso, la differenza la noti e come. Ma in alta definizione anche canale 5 trasmette, per dire, tutti i media sono in alta definizione. Se tu vai sul canale 556, il canale 5 trasmette in alta definizione. Se tu vai sul canale 5 ti trasmette canale 5 normale, capito? Già lo so, sì. Sai, un canale Rai, che è il Rai HD, che trasmette il programma principale della giornata di uno dei tre canali Rai, viene trasmesso in alta definizione, e poi c'hai Tele 1, Canale 5, Rete 4. Però il discorso è che quando tu vai a vedere un'altra mole di canali, soprattutto ad esempio quelli del National Geographic Channel o di Discovery Channel, che ti fanno vedere particolari eventi o trasmissioni o scoperte, quanto può essere, è veramente piacevole vederli con l'alta definizione. Cosa che devi aspettare di trovare un passaggio in HD in uno dei canali di che sia Rai o dei Mediaset che abbia quel genere di contenuto che tu ti aspetti di vedere. Cui ad esempio bellissimo sarebbe vedere la sera, per farti un esempio, Gerangheo, che però non viene trasmesso in quel passaggio su Rai HD. Su Rai HD passano altri contenuti, eppure sarebbe sicuramente bellissimo, probabilmente molto gettonato. Sì, una botta di vita, prego. Quanti prego? Cappa di Roger, ben sentiti da questa parte di Grota che rientra seguito della carica batteria. Ciao Salvatore, ciao Gianni Dubbio Room, piacere sentirti dopo un po' di tempo. Salvatore, fa una botta di vita, che non è io. Ehi! Ciao Antonio Rode, ben sentito. Guarda, che non è io, a me piace. Lo guardo quando sono a casa, per dire, un figlio o cosa, lo guardo perché è difficile che capiti a quell'ora di lì. Quando riesco a vederlo, ma lo guardo perché mi piacciono molto gli animali, i documentari, tutte queste cose qua, io non lo mando. C'è qualcuno sotto, avanti. Tanto, è proprio il discorso che sta facendo Gianni, capito? No, ma stavano facendo degli esempi di quelli che potevano essere delle trasmissioni o dei canali godibili, a maggior ragione perché trasmessi contenuti in HD, e facevamo gli esempi dei pochi canali comunque che tu hai free rispetto alla programmazione HD di Sky, tutto lì. Senza che potessero decidere di averlo o meno, e cioè spiego. Se tu fai una variazione e metti nella condizione le persone, i contribuenti che pagano il canone Rai di passare dall'analogico al digitale, devi fare quantomeno una trabottazione, mettiamolo così. Perché di colpo la maggior parte degli italiani si sono trovati ad avere televisori obsoleti, perché non potevano, cioè, ad esempio quelli con la presa senza la presa SCART già non potevano più supportare il digitale terrestre, ma anche quelli che possono supportarlo con una presa scarta e vengono rovinati miseramente a seguito di un paio di mesi, perché la presa scarta scalda la scheda e chissà perché dopo un po' il televisore va a cioca minuta, come si vuol dire. Comunque tu immaginati poi tutte quelle persone anziane che non hanno la capacità di sapersi settare il televisore e che ogni volta che cambiano le frequenze se lo devono rifare, devono chiamare un tecnico. Tu immaginati il danno economico. Tu immaginati quanto, che danno c'è stato per l'ambiente, perché abbiamo riversato tanti di quei televisori sfasciati, o meglio non sfasciati, ormai che non si potevano più utilizzare, sono stati buttati, quindi immessi davvero parecchi detriti nell'ambiente stesso. Ma allo stesso tempo mi devono spiegare perché i nuovi televisori che hanno il digitale terrestre integrato sono sempre in stand-by. Tu immaginati questo stand-by moltiplicato per il numero di italiani, quanto è di consumo di corrente elettrica. È davvero una vergogna, per cui darti dei canali, sì, alcuni dei quali valgono, ma altri sono mondezza allo stato puro. Guarda, ho perso praticamente la metà del tuo passaggio perché vi siete sovramodulati con Gianni, quindi non ho apprezzato il senso completo del passaggio, sinceramente. Oh, well. Ho detto per lo più cretinante, però stavo dicendo, non capisco come mai innanzitutto non sia stato fatto un referendum al fine di decidere se passare o meno al digitale, dopodiché quante persone hanno buttato via il televisore che non poteva essere adattato al digitale terrestre, e soprattutto quanti vecchi hanno dovuto chiamare ogni volta il tecnico, ogni volta che davano le botte e cambiavano frequenza. È stata una vergogna. Non ultimo il fatto, appunto, come ti dicevo, non so se hai copiato, che i nuovi televisori, nuova generazione, escono tutti con lo stand-by sempre acceso, cioè con la lucetta dello stand-by. Tu immaginati moltiplicato per il numero di italiani, e soprattutto mi devi spiegare perché con lo stand-by acceso, in barba a quello che è il risparmio, che deve essere il risparmio. È una vergogna, è davvero una vergogna, per poi avere dei canali che non valgono poi così tanto, cioè il gioco non vale la candela. Però è stato davvero poco rispetto nei confronti di chi paga il canone, che è un contribuente, e si è trovato a non poter decidere, ma solamente a dover sborsare i soldi e a trovarsi tutta una serie di apparati che di colpo sono diventati obsoleti e che ha riversato nell'ambiente, quindi a danno anche della natura, diciamo. E ha giocato. Ma comunque tutti i televisori hanno il loro pulsantino di accensione e spegnimento, anche il nostro, che l'abbiamo comprato recentemente, penso anche quello di Gianni, che l'ha comprato, è fresco di acquisto, ha il pulsante di accensione e spegnimento. Solitamente quando tu lo spegni da telecomando va in stand-by. Lo stand-by comunque gli permette di continuare a ricevere gli aggiornamenti dell'eventuale cambio frequenza o aggiornamento delle guide TV, soprattutto serve per quello. Se no, altrimenti uno comunque lo spegne e si cerca l'aggiornamento della guida TV alla successiva recensione. No, boh, negativo. Se te lo può confermare Gianni, si è comprato un televisore in ultima generazione che può essere spento sia dal telecomando ma anche dal quadro laterale del televisore, e prevede esclusivamente che vada in stand-by, tant'è vero che vanno accoppiate adesso a delle ciabatte aventi il tasto bipolare per poter staccare direttamente da lì il televisore, se no ti rimane sempre la lucina accesa. No, da me no. Forse il mio è diverso, però anche dal telecomando posso spegnere la luce. La spengo completamente, si accende e si spegne dal telecomando. Se no c'ho anche la ciabatta, come hai detto tu, col tastino rosso acceso, premo il tastino e spengo tutto completamente. Anche il mio è così, l'ho preso qualche mese fa. È uguale, lo spengo dal telecomando, lo posso spegnere anche da dietro, la lucetta non ci rimane accesa, non rimane in stand-by. Io ho preso un Samsung, quelli smart, come si chiama, smart di TV, fa la stessa cosa. Poi ti faccio una domanda, perché non hai preso un Samsung? Perché il colore ce l'aveva troppo. Un Samsung, diciamo che accende, cioè, con... è bello, sì, però ai colori, li esalta troppo i colori, non mi piace quei colori, non sono naturali, invece questo li vedo più naturali i colori. Quando è molto, non tanto, prima volta che ho comprato dei Samsung sono all'avanguardia, soprattutto quelli a LED, perché io il plasma c'era un plasma, l'ho cambiato proprio, ho avuto un po' di problemi, c'era un plasma, l'ho cambiato proprio perché scaldava troppo e consumava troppo, poi ho avuto un problema, alla fine l'ho preso e l'ho cambiato, la differenza c'è, si vede con questi nuovi. Ma io non ce l'ho al plasma, io ce l'ho al LED, ce l'ho al LED 3D eccetera eccetera, 42 pollici, 41, 42 forse. E l'ultimo delle LG che ha fatto era diciamo in offerta e ho preso quello lì perché diciamo i colori erano belli, mi sono piaciuti, eravamo incerti su quello lì o il Samsung, la verità, però abbiamo visto che i colori erano troppo accesi, quelli del Samsung, non è questione, è una questione proprio loro. La Samsung fa i colori proprio così, anche nei telefonini, eccetera, eccetera, è così. Io capisco, io c'ho un Samsung, insomma, una questione di regolazione per regolare freddo, caldo, eccetera, eccetera. È ovvio che anche io l'ho regolato e ho abbassato un pochettino quello che dici tu. Li ho paragonati anche io con gli LG e la verità, ho fatto una ricerca prima di comprarlo. Se la volta dove andava, perché era passivo anche il 3D eccetera eccetera, e quindi ho optato per, non so se li visti quelli, il mio era 46 pollici, ho preso quelli come si chiamano, smartphone, dove ci parli con la televisione, cioè, cose che usano i bambini. Sì, l'ho visto. QRX per me un attimo. E comandi a voce, sì, l'ho visto. No, questo qui c'è anche il 3D attivo, non passivo. Il passivo è quello dove si mettono le batterie degli occhiali, così. Il contrario. Quelli che si mettono le batterie sono quelli che si accendono e si spengono uno che l'altro, ho capito. Però mi hanno detto che quelli sfottano molto la vista. Quindi diciamo per quando, perché c'era solo il leggero il sistema, capito? Meno profondità dopo il cervello, la ragazza non è capito, meno profondità dopo il cervello. Cavolo, è bellissimo, guarda, ho visto un film dove c'era la neve, sembrava che uscisse dallo schermo. Sì, non so, ma se trovi quello attivo ne so anche di più di neve. E vabbè, comunque a me va bene, non... Sì, stavo per prendere il Samsung anch'io, dico la verità. Ed era anche in offerta quel Samsung lì, quello che stavo per prendere io, il 42 pollici mi pare. E veniva 1200 qualche cosa, un 200 euro in più di quello che ho comprato io. E beh, con queste tecnologie, beh, ciao Gianni. Ciao. E i tese fattendi due, e i tebava, sempre più in alto. Parlando di televisori stavamo. Sì, guai, lasciate perdere. Bella cosa. Tutto bello la tecnologia. Mi in compagnia di Fabrizio, di Salvatore, prima il sottoscritto, e di Grode. Ciao Fabrizio. Dottore, è Grode. Avanti Fabrizio. KQRX per me un attimo, scusate. Avanti Fabrizio. Io riprendo. C'è un bel tratto, è ben sentito. Cioè, da chiedere una cosa a Salvatore. Salvatore, ascolta. Sto dicendo questo intendo, scusami gli amici, che così poi me ne vado. Sto dicendo questo intendo di essi, ci sei. Non so nemmeno perché si usano controllato, c'era una cosuccia dentro, adesso sembra che stia andando, che gli ho riparato, però come funziona la schedina? Una volta dicendo come la devi avviare? Aspetta che me lo faccio ricordare un attimo da mia figlia. Ehi, tappati qua. Già. Ciao, ben sentito. faccia, io sto facendo il correttivo. Ah, hai capito, sì. Ciao Tino, ben sentito, va. Beh, a tutti ci presenti. Prima informazione. Hai riparato la Nintendo? Sì, ce l'avevo assieme di tutti, cioè, sono ancora e non l'hai più usata. Cioè. E mi ha detto, mette sto funzionando, e mi ha detto, perché come si è abbassa, speccato, se ne ha litigio con te. E mi ha detto, non usava più il tanto, cioè aveva sempre 6 mesi la ferma. Dopo dopo, gli piccoli non funzionavano, non funzionavano più i tasti, dai. giro di giro il display. Ti posso dare una commissione, Fabri, da parte mia con altra persona. Ma che cosa? Se lo sostituisci. Io si può sostituire, però io con questi casi sono frammentini legato di rischi casino, sono lì, no, c'è una che ci vuole molto. Io avere il modello, avere un attimino, no? Fabri? Dimmi. Posso dare una commissione? Stai attento alla lunghezza del flip cable, così che dopo tocca smembrare lì la Nintendo. Stai molto attento perché ci sono molti emuli in giro per il web. Stai molto attento al flip cable. La lunghezza del flip cable, mi raccomando. Sì. Fai tu, vedi, io ti ho avvisato, Oh, io sinceramente non la intendo, la volevo riparare, però diciamo che se ne sono lavati un po' le mani un po' tutti, il centro assistente, con l'erbario, e quindi niente, ho mollato. Però se c'è la possibilità, Fabrizio, a proposito, ho visto con la due ruote verde lì nel piazzale in compagnia. Che cosa di verde? Cos'era? Una vespa? Qualche vespa, tre vespe, qualche guzzi, non lo so, l'ho visto. Ma non so, sai che mi è sembrata una vespa, mi è sembrata, perché sono passato proprio, c'è lì, che ho già visto e la stavo girando. In strada. Cosa, Fabrizio? Ma saltò la sola. E io? Sì, tocca e lì c'ho il garage, stavo facendo lì, allora sì, la stavo pulendo. Io stavo uscendo dal lavoro e ti ho visto, non ho fatto in tempo a suonarti, però già ti ho visto. Facciamo a salutare, no, lui ogni tanto anche stasera lui facendo dei lavoretti. Ma è caffala. Massimilia, correttivo momentaneo per me, dai. Ci sentiamo dopo, casomai è arrivata gente. Ciao già. Ciao già, ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Sì. E te lo capi più. Ma come ti funziona la volta ci scrivi di queste console in due volta e secondo me posso vedere anche questi giochi. Come sarebbe di confrontare il touchscreen? Touchscreen è una pellicola sensibile messa sul display. Non ho capito, questa console qual è che funziona, come si può, io non ho capito, ma stavo fuori questi giochi, mi lasciano i buci, mi dè, e voglio capire cosa sta succedendo prima di, perché tanto la funzione dei tasti sono tutti andando qua, mi sembrava che stia andando il touchscreen, però non so come funziona la console. Questa console, infatti devo chiamare Salvatore, che ce l'ha. Non abbassi questo microfono. Sinceramente mi stai ammazzando. Così, almeno non lo posso diminuire tutto inchiodato, con i chiodini, sto fermo. E vabbè, ma le mie Sennheiser ci stanno prendendo a pugni, Cioè, non ho capito. Oh, come voi, lascialo pure così, ma no, sinceramente non è gradevole. Poi regola, fai quello che vuoi, ma mamma mia, è fortissimo e da sul baritonale, abbassalo, ti sento fortissimo. Va bene, ma è sempre così da un anno che l'uso, va bene, se lo abbasso, non mi ricordo, ma ce l'ho regolato, un anno fa è sempre così, va. Ma va bene, grazie, non mi abbassati il volume che già mi ascolti. Ma guarda, io sono a Itri, se Sassari ti sentono male, cioè se ti sentono bene a Sassari, io ti dovrei sentire ancora meglio, perché sono più distante. Non lo so, mi pare che niente, ma non sia giusto, a distanza dovresti essere più debole come radio, ma sei fortissimo anche qua. Però non cazzo ti arrivano bene, non so perché, lascialo di là. Guarda, io ti dico la verità, Allora, se dovessi registrarti e ti faccio sentire come arrivi, ti rendi conto che è esuberante la radio, non è che non è comprensibile, ma è esuberante, bella, ma esuberante, cioè significa che io abbasso il volume, inizio a mettere il filtro, tutto quanto, e ti ne fanno busso medio, mia manetta, hai media manetta, ma non è che per questo la televisione non serve, attenzione. Ma c'è lì, ci piace uscire croccanti. Veramente è croccante, non croccante. Non da quadra, Guscia. Boh, vedi tu. Comunque va bene lo stesso, non è che io ti ascolto comunque. Ma se le dai appena più di rotondità non guasta. Insomma, qui è levata così, questi radio escono così, escono tutti affetti. Ti mostro che nella DHF non escono squadrate, escono con una sinusoide BF corretta, poi vedi tu, a me boh, non mi interessa, sai, io ti ascolto così e così ti dico, se ti sento più tondo ti dico che ti ascolto più tondo e via, comunque va bene, lascia così. Siamo così, abbiamo regolata, siamo subito per regolarla nuovamente, lì ci è rimasta. Vediamo un po', già ci sei, che sta andando, vediamo un po' che altro c'è. Oh, ci sono anche io, sono un attimino in quel X che sto guardando un attimino su internet. Prego, avanti. Avanti. Vai già, vai, che sto guardando una cosa che mi interessa su internet e poi già rientro. Bene, bene, Fabri. Sì, riprendo io. Sì, no, sto controllando, c'è qualcosa che non mi fa già, magari sto sbagliando io, usandola, non è mai usata sta console, per carità, ma non mi sono mai piaciuti i giochini, ma tu ci credi. Aspetta, cosa hai detto che questi giochini? Questi giochini non mi sono mai piaciuti, queste console, questi Nintendo DS, questi, tutti i giochini, tutti questi elettronici non mi piacciono. Io programmo in C e in assembly, in C più in assembly, ma utilizzo quei programmi per lavorare, sai quei display che escono nelle macchine, più zucchero, più caffè, scrivo con i, diciamo così, con i P che programmano l'intelligence computer, per quanto riguarda quel tipo di apparati, appunto lavoro in queste cose, non ci sputo sul piatto dove mangio, assolutamente, non è un apparato manovella, questo scordalo, sicuramente è molto più tecnologico di un bidone con le manovelle, ci siamo, se poi non ci piace a noi, perché noi siamo una categoria di persone che amiamo il retro o il déjà vu, è un altro conto, però tanto di cappello a quelle cose, attenzione, ne sanno molto più di noi, No, io uso tutta la tecnologia, la uso anche troppo, sia personalmente che al lavoro, la uso anche troppo a te cose, ma non mi piacciono i giochini proprio, non mi piacciono i giochini, le console, l'iPad per esempio, perché i giochi sono i figli che quando arrivano se lo prendono si mettono a giocare, ma a me proprio non piacciono i giochini elettronici. Allora non ti piace giocare, è diverso. I giochini sono belli per il contenuto, per tutto quello che ci vuole per realizzarli. È sempre un avanzamento, è sempre una cosa tecnologica. Loro, i giovani, hanno sempre ragione da un punto di vista, attenzione. Io gli dirò sempre che non sanno mai cos'è l'hi-fi, non lo sapranno, non lo capiranno mai, non capiranno mai cosa vuol dire così lavorare in elettronica, elettromeccanica, informatica, impiantistica, non lo sapranno mai, questo sicuro, però contenti loro, contenti tutti, scusa, se andiamo controcorrente non lavoriamo manco noi, e di che va bene. Va bene, ma non mi piacciono proprio i giochi, ti ripeto, non mi piacciono i giochi, perché non mi appassionano, capito? Non so, c'è qualcosa che spagnello, ma nemmeno da ragazzino, quando iniziavano ad esserci i primi giochi, quelli lì, però non mi hanno mai appassionato, è questione di gusti. Sì, ma per carità, rispetto pienamente la tua volontà, non ci mancherebbe. Però vedi Fabri, non bisogna così stare tanto lontani da queste cose, perché oramai è tutto così, è tutto informatico, è tutto basato comunque sul controllo di un chipset, no? Non c'è niente da fare. Io riesco a comprendere anche la tua voglia di avere qualcosa di più semplice, perché sai, ne sei stufo di vedere queste cose al lavoro, però è tutto così, è tutto basato su queste cose. Dove lo vuoi portare? Andiamo indietro, ci compriamo che ne so, un apparato in basic e lavoriamo in basic con un altro. Non è possibile. Sì, è una bella cosa. Anch'io so che le bobine Revox di un tempo hanno un audio superiore al CD, ma il CD è più comodo e più versatile. Vuoi che sia in MP3, ma da una canzone all'altra ci passo in frazioni di secondo. Sono stati tantissimi bravi. Non lo so, io ripeto, credo che la creatività nasca anche da un incoraggiamento sotto certi aspetti. Sì, sì, sì, già non c'è problema, io già non scoraggio nessuno, per carità. È solo che non ci gioco, giochi in punta e basta. La uso per altre cose, cose più utili e più importanti. I miei figli giocano con i giochi, non gli manca niente, console contro console. Hanno mollato tutto, ma quando si giocano con queste spade, mi stiamo sempre giocando con i giochi l'uno nell'altro. E vabbè, te li lasciamo fare, almeno magari fanno quello, non fanno altro. Franco Hackers russo mi dice sempre che c'è sempre da imparare. Lo so, 20 anni, è un demonio, le vorrei proprio pensare la parola, ogni tanto ci sentiamo perché lui è appassionato di hi-fi, sai, no? È stato uno dei miei diciamo così grandi consiglieri dell'informatica e mi dice sempre questa parola, dice c'è sempre da imparare, c'è sempre da informarsi. Eppure sono persone che lavorano in stazioni diciamo così collegate con la NATO, gente con le palle quadre, ma non c'entra niente. Cioè io ti capisco cosa vuoi dirmi tu, che non, tu non vuoi limitare la tua conoscenza a un gioco, ma il problema è che questi ragazzi hanno conosciuto questo e sono cresciuti con la console in casa. E che fai? Togli il pesce di bocca. Fabri, cerca di capire, non sono stati così poco agevolati come noi. Io non so se ricordi, io sono del 67 e non c'era tutto quello che c'è adesso, e tu sai benissimo che quando tuo figlio gli dai un gioco, gli dai una console, quanto costa e quanto ci vuole eccetera eccetera, per noi è acqua fresca. Lo so, adesso io lo faccio ascolto perché devo cercare un pezzettino piccolino e poi riprendo. No, fai, prego, buon lavoro, io adesso mi sposto. Buon proseguimento, fai pure il tuo lavoro lì, tranquillo. Io vado avanti qua, che ho due o tre cose da vedere. Ci sentiamo Fabri, buon proseguimento, grazie delle quattro chiacchiere, ciao. E grazie mille, ciao Gianni. Ah, ciao Fabri da Bunquerix. Da parte mia io vi dico questo, anche io... diciamo sono d'accordo con Fabrizio perché a me non ci prendo gusto con questi giochi, magari quando ero ragazzino sì, quando ero ragazzino ci giocavo molto spesso anche da fidanzato con mia moglie e cose, però adesso non ci prendo più gusto e vanno sempre dosati queste cose qua, perché poi alla fine li rincoglionisce. Tante volte non vanno manco in bagno per non perdere il gioco. Sì, mi permetto di prendere. Sì Gianni, io invece guardo ancora Bad Bunny, guardo ancora Topolino, Paperino, sì, vivo sulla luna, non c'è problema. Allora, cosa vuole uno? Perché non sei libero di farlo? A me mi piace, capito? Roger Rabbit, mi piace tantissimo, allora lo guardo tantissimo, non c'è problema. Sai, è il mio carattere da bambino, e tu che sei cresciuto, cosa programmi? Le bombole? No, diciamo che io rispetto sempre ciò che fanno gli altri, ognuno poi ha i suoi modi di pensare, i suoi punti di vista, diciamo. Diciamo che ci sono le cose che preferisco e le cose che magari non mi vanno a genio, ecco, come un po' tutti. Sì, ma pensa sempre che ironico il mio modo, pensa sempre in questo modo, anche perché è caratteriale. Non è che rido tutto il giorno serio, che se mi vedi dice ma questa è la tristezza in persona. No, non sai cos'è il problema, già ti spiego, no? Allora, intanto ti invito se riesci a trovare l'articolo I viaggiatori della luce, lo do a te, a Fabrizio, è un incorniciato di un mio maestro, no? Se riuscite a trovarlo, leggetelo e capirete. Poi del resto io non sento di sparatori del web, compagnia bella, tutta gente che va su giù, che fa, non me ne frega niente. Però, ripeto, è ridicolo. Attenzione Gianni, non è che uno che segue o che guarda un giochino è una persona superficiale, bisogna vedere. Oggi i giochi sono fatti comunque da esperti programmatori, sono stimolanti, vanno bene. Io rispetto il carattere dei ragazzi, anche perché sono nati con queste cose. E noi cosa conoscevamo nel 67? Inizia a raccontare. Il monopattino, ho fatto di legno, con i cuscinetti, tutti questi giochi qua, ce l'hai tu, tutte queste cose qua. Vabbè, però i tempi erano diversi, ben venga la tecnologia, ma naturalmente sempre va dosata, secondo me, perché ogni tanto un po' di realtà non fa male. Sì, ma è chiaro che una persona deve essere terrena. Io quando, diciamo così, metto avanti un mio modo di vedere, una mia realizzazione, un modo di pensare, tutto quello che vuoi, un modo di progettare, è sicuramente terreno, è reale, si tocca, si vede. Anche perché, ripeto, è quello il mio lavoro, va bene, però ciò che è surreale o ciò che è 3D non è che va buttato via. Se per questo anche un film non serve a nulla, è tutta una finzione, accomodato, quando tu vedi che Valeria Marini tromba con due maschioni, c'è un'equipe di 50 persone, quindi è una palla, è una vera e propria palla. Quando la bambola ha fatto quel film con Bandera era una palla, capisci, che ha fatto carne tremula. Ma se iniziamo a parlare così, ma ci piace, a noi ci piace, vabbè, tutto è bello, io non li critico, per carità, anche perché mi ci sarei voluto in questo tempo con almeno 30 anni di meno. E vabbè, diciamo che ben venga la tecnologia, perché diciamo essere innovativi non guasta mai, però ognuno, diciamo, c'è Marco mio figlio, per dire, che se non glielo prendi Nintendo DS, se non glielo prendi da mano sono tutte giocate a carte, queste cose qui non vanno bene, devono avere anche un po' di svago. Io dico vai, chiama quel bambino che abita su, andate a giocare un po', e lui no, aspetta un attimino, a volte non vuole uscire da casa per giocare con Nintendo, ma dove stiamo andando a finire? Poi si chiudono i bambini, è così. Infatti io molte volte lo prendo, anche se urla, se strilla, non me ne frega niente. E glielo prendo e lo riporto alla vita normale. Senti già, a me pare che tu mi hai detto che lavoro fai, tu trasporti i pacchi, mi fanno cosa così, mi hai detto? Porti. Giusto? Ok, perfetto. Allora, io quello che ti dico faccio veramente, non, cioè vuol dire questo, che non vado oltre quello che veramente so fare. Io ammiro i ragazzi perché dicono, io conosco quel gioco, so fare quella cosa, magari domani saranno dei bravissimi programmatori, delle persone avanzate, perché cercheranno di capire come è fatto quel gioco. È inutile dire io lo so, no, fatti non parole, io quando ve l'ho fatti credo sono un gran San Tommaso e vaffanculo a tutti quanti quelli che cercano di convincermi, manco venga il Papa, cagando oro io ci credo, io voglio vedere, io voglio fatti, non parole. Gianni, tu trasporti pacchi, io ti ammiro, quel ragazzo gioca con qualche pre-arena, a me mi fa benissimo, perché un domani sarà un bravo programmatore. Ma sai cosa ti dico già? I retro veri e propri siamo noi, siamo quelli che abbiamo sempre creduto di dare tanto, capito? Parando le spalle, ah che belli! Ma c'è sempre una via di mezzo in tutto, quello che dico io è quello, io non glielo nego, perché gli ho sempre preso tutto, c'ha giochi, c'ha computer, c'ha tutto quanto. Il mio figlio usa il computer da quando era proprio bambino, e devi vedere come lo usa, sa fare molte cose più di me, eccetera, eccetera, perché è nato, diciamo, col computer in casa, quello è vero. ma per dirti, non impedisco nulla, solo che le cose sono per fare le mie vogliono dosate, ci vuole un po' di l'uno, un po' dell'altro, perché a lui piacciono troppo i giochi. Tu pensa che hanno organizzato da questo negozio che vende computer e roba del genere, delle gare di giochi e cose, ha vinto mio figlio, per dirti. Se n'è andato con il premio, gli hanno regalato delle carte, non so, di Pokémon, non so cosa, dei pacchi di carte. Questo ti spiego una cosa, l'ignoranza, io mi ritengo un'ignoranza, no? Noi siamo ignoranti già, perché noi pensiamo sempre che non abbiano torto, tutti se hanno ragione, fondamentalmente vanno nella giusta direzione. Tu prendi un iPod oggi, ti metti le cuffie, ascolti 150 milioni di canzone, il mio giradischi mi è inviato sterno da 30.000 euro, fatto da me ovviamente, da 30.000 euro, quotato in tutta Italia, visto il mondo, a modo internazionale, io lo passerei al muro. Perché? Perché ci sono 22 valvole per passo, sicuramente non sono come un iPod, questo se lo mette in tasca, lo asfalta, lo blocca, ne fa un mattone, lo piscia, lo caga e lo seleziona, tutto quello che vuoi tu. Però quello si mette un iPod con le cuffiette, magari Schneiser, e ascolta la musica passeggiando con la ragazza e poi mette la mano in caldo, e invece tu che stai lì a sudare con i valvoloni accesi, con i transistoroni, con il piatto, con 50 dischi dei Beatles. Lo so, però non è la stessa cosa, lo vedo più freddo l'iPod del giradischi. Ma sostanzialmente hanno ragione, perché è molto più versatile, è molto più pratico, molto più veloce. Ascolta, già, andare avanti non è come andare indietro, lascia perdere le preferenze. Tutti quei ragazzi che sono venuti qui, che hanno ascoltato la musica dal mio apparato, hanno detto che è insuperabile, però continuano a mettersi le cuffie dell'iPod, nonostante che ascoltino musica, non la scatola di scarpe, l'abbiamo capito. Ma fondamentalmente hanno ragione, vanno nella giusta direzione. Lo sai cos'è? Non lo vogliamo ammettere. Già, hanno sorpassato le nostre aspettative. Senza andare tanto lontano, io ho una macchina fotografica professionale, reflex con obiettivi, con tutto quanto, la telecamera messa da parte, perché oramai sono tramontate, non sono più a rullino, adesso le macchine per comprare quella tecnologica ho messo da parte l'altra, però sono nuovissime eccetera, ed erano macchine che usavano per fare i matrimoni fotografi. Sì, perfetto, tutto quello che vuoi, ma vedi che è retro, è una cosa retro. Anch'io conosco le bobine Revox, che hanno le palle quadre, che al CD le suonano, che le suonano le QSO, ma non è importanza, cioè oggi bisogna comunque andare avanti, e lo ripeto e lo ridico, un conto è che devi pescare il pesce, è così, non puoi usare il CD, ma dove si può, è convenzionale, cioè usare una cosa che sia molto più pratica. Io ripeto, e te lo dico, fatto vedere uno che progetta apparati da una vita, che programma in CPU, che programma in assembly, tutto quello che vuoi, come vuoi già, come l'hai imposti, io mi sento un nanetto nei confronti di questi ragazzi che oggi utilizzano l'iPod, giustamente mi hanno sorpassato, e sono io quello che lavora in questo campo, ma li vedi che sono, hanno una testa diversa, sono più giusti secondo me. E diciamo che loro sono ambientati nella loro era, ognuno diciamo ha fatto del suo meglio nella sua era, adesso è un'era tecnologica e loro vanno avanti con la tecnologia normale. Però bisogna anche adeguarsi e seguire i passi, i tempi, diciamo. Perché io riesco a realizzare dei convertitori CD stupefacenti, bellissimi, con i chipset Burbrown e compagnia bella. Io lavoro proprio su quei convertitori, mi piace tantissimo sui CD. Ho degli amici che hanno delle grandi industrie, li vendono a Google. Va bene, sono contento, questo va bene, questo, non prendere un apparato che è una montagna che spacca la roccia, che si sente il suono del piano perfetto. Vabbè, ce l'ho, ce l'abbiamo, lo sappiamo, però non nella giusta direzione, perché se tu vuoi uscire in giro, libero, tranquillo, senza tutto un confronto, 50 kg di peso, esci con l'iPod. Comunque, ti dico una cosa già, calma, si sentono anche bene. Piano, non iniziamo a denigrarli. Io ho ascoltato qualcuno che inizia già ad avere un audio eccelso. Sì, sì, senza ombra di dubbio. E per non parlare delle pennine USB, che ci stanno delle canzoni, che non ti devi mettere 1000 CD in macchina, per dire, metti la pennina e via. Guarda, ho dei programmi allucinanti, sono proprio io, sono il più hippetaro del mondo. Però caso strano, quando io pubblico le mie realizzazioni, il mio forum, ci sono le cose più strane di questa terra, bellissime, però c'è sempre l'informatica, e la maggior parte io utilizzo l'informatica con apparati che sono pilotati per lo più da dei chipset, in qualche modo ci deve essere la digitalizzazione, perché oggi esiste. Già, non lo vogliamo ammettere, hanno sconfitto il nostro modo paleontolittico di pensare, questi ragazzi di oggi. Diciamo che... E poi la tecnologia ogni 3 mesi ti manda qualche cosa di nuovo, di innovativo, quindi non è che finisce lì, va sempre più avanti. Oggi ti fa per dire un televisore che ti fa quello, domani addirittura mi stavano dicendo che adesso sono usciti dei televisori che si vede in 3D senza occhiali. Vedi, lo vedi, stanno cambiando le cose già, noi non vogliamo ammetterlo, però siamo delle persone che hanno fatto la loro parte, eccetera. Io ripeto, non mi sento assolutissimamente retro perché lavoro nel vero e proprio senso della parola come un programmatore informatico in vari campi, però questo non vuol dire comunque che uno che usa l'iPod solo perché non conosce, no, è nella giusta direzione. Io ammiro il loro modo di vedere, ecco, questo mi piace, perché cavolo, metto l'iPod, passeggio. Poi naturalmente non puoi paragonare l'iPod a un mostro sacro della musica, non puoi paragonare l'iPod a una macchina per la musica, tutto lì. Poi questi baracchini, questa è tutta roba da buttare nella mondezza, amica, questa roba che non esisterà più, questi vanno bene al macino, vanno bene a farli pisciare dal cane. La faccia, ragazzi. Beh, ci danno i modelli tecnologici anche degli apparati CB. Dite apparati tecnologici, c'è qualcosa di SMD, guarda, io ho visto un 48, il PSX, quello per... che ha il DSP, uno di quelli, ma sono bellini, sono carini, tutto quello che vuoi, però è sempre ancora manovella, ma la sorte è qui, ai pod, qui, quegli apparati, c'erano Zen che hanno fatto un tempo bellissimo, ma io non cambierei mai il mio PC per questi ferri vecchi già. Vabbè. Sì, bisogna adeguarsi quei tempi, quello sì, però... diciamo, tante volte esageriamo pure, esageriamo anche con le macchine. Adesso per dire, quando mi sono sposata, mia moglie ha detto prendiamo un PC perché dobbiamo essere anche noi a pari passo con i ragazzi quando crescono, eccetera. E mi ha detto no, ma è una cosa inutile. Poi quando l'ho preso, è piaciuto anche a lei, ha cominciato anche lì a scrivere, a fare, a farsi gli ordini dei prodotti che vende, eccetera, eccetera, e ha visto che era una cosa utile. Beh, adesso ne abbiamo 5 di PC a casa. Te l'ho detto, ma dov'è che il PC non è entrato? Ma in quale casa italiana non è entrato? Ma dai, non parliamo altrove perché, insomma, bisogna riconoscere che siamo, te lo sto dicendo, qui in Italia siamo retrogradi, no, non voglio parlare dei miei amici americani, che sono dei demoni veri e propri con il PC, io quando sento la gente fanno ridere già, vedere quei demoni, assemblatori, cose, gente che sta lì, con l'informatica, tra gli umani veri e propri ingegneri che lavorano addirittura a Microsoft, certi programmatori che lavorano con Peter Norton, tutta gente con le palle quadre, quelli sì, quelli sono ammirati, ma io li ammiro sempre, grandi, vabbè, ok, poi chiaramente quello che faccio io non lo sanno fare, però già, TV. Non posso dire che l'arcaico è superiore a una cosa ultra tecnologica, ma per carità, sarebbe da stupidi. Io ripeto e ritorno a dire che comunque qui vabbè siamo indietro di 38 anni e mezzo con la tecnologia, poi tutto il resto si darà già. Però ripeto e dico, non disprezziamo quello che stanno facendo i ragazzi che sono il futuro e sono quello che veramente ci porterà a conoscere nuovi orizzonti della tecnologia. D'altronde Jobs ha fatto tanto, basta, bisogna averne rispetto, tutto lì, chi si nasconde è perché è codardo, io lo dirò sempre. Cerca una bella cosa, ti saluto già, chi lo manda a canare, chi si cracco. Complesso, ti do un bacione forte, forte sulla fronte, cara, ma di qui lì fuori. Ci sentissimo già. Grazie sulla fronte ci dai urti. Vabbè, dai, buona carica, ci sentiamo, mi ha fatto piacere fare quattro chiacchiere, dai, ci sentiamo già. Sono anni che non ci intendevo. Alle prossime, mi fa sempre piacere ascoltarti, ciao ciao. Ciao, mentre l'ascoltoni, complimenti, ciao a tutti, ciao, bye bye. Ciao, già, mettiti il rossetto per dargli il bacio, perché sono rimane il segno, Ma siccome lui è alto, grosso, robusto, mamma mia come l'abbraccio, lo avvolgo come un cobra, chissà che ci sia qualcosa. Ciao, già, ciao, buon pranzo, anzi, buona cena. Via. Ciao, ci sentiamo, grazie ancora, grazie a te, grazie a tutti. Ci sentissimo, bye bye. Cappa, cappa, ciao già, per carità, a te l'immagine questo già. Ui, ui, è una scena. Avanti, ti. Ho finito adesso di guardare una cosa sul computer e mi stanno chiedendo gli ultimi, sono da stamattina presto che sì, ho dovuto andare a lavoro e mi sta venendo l'abbiocco. Ma a proposito già, ti volevo chiedere, hai sentito di quel pescatore di Porto Torres che ci ha rimesso le penne, poveraccio? L'ho sentito, sì, ho visto anche, io ieri sono passato in una via e ho visto tutti i furi piangendo, ho detto qua è successo qualcosa di brutto. E poi sono ripassato stamattina, c'era ancora gente fuori, stasera lo stesso, ho capito che abitava lì. Per carità, a che fine? Ma voglio dire, adesso non mi ricordo quanti anni ha, forse quanti anni aveva, 30, 32, non mi ricordo. Però voglio dire, già era una persona, non dico vissuta, ma con qualche esperienza sulle spalle, quindi quello che ho letto io sul giornale mi ha fatto capire che non era la prima volta che andava a pescare da quelle parti, quindi voglio dire, un po' di prudenza. E lo sai cos'è? Che c'era mare in questi giorni, c'era un bel di mare, c'era tramontana, vento, solo che quella zona lì, a quanto mi ha detto un tipo, quando c'è questo tipo di mare prendi pezzi belli grossi e quindi vanno per quello, ma si vede il pesce lì. Io ci vado e sugli scogli non ci trovo più da quando è caduto quel mio amico. Una volta siamo andati a pescare con un amico, ci hanno fermato a Porto San Nicola, lì stavano andando a stentino, ci hanno fermato i carabinieri e ci hanno buttato il mitra a questi carabinieri giovani. Questo è come, ha detto scusi ma non togli il mitra avanti che può partire qualche colpo, noi non sappiamo chi siete, scendete dalla macchina, aprite il portabagagli, ci hanno visto le canne, tutto qua, detto stavano andando a pescare. E dove state andando? E gli ha detto il punto, e dopo la pelosa e più bastoni che ci sono, e detto vabbè, dopo, dopo ci dobbiamo fare un giro, veniamo a trovarsi. E va bene, abbiamo fatto amicizia, così ci siamo messi un po' a parlare, infatti ci hanno fatto perdere un po' di tempo. Fatto sta che con questa come abbiamo messo i filaccioli per i roghi per le mulene, con i barattoli, come si fa? Certo, bravo, bravo, bravo, Antone, Antone, il drongo. Cazzo, appunto la pila, ragazzi, non mi veda lui che cadendo giù, cazzo, si è fermato pochi centimetri dal mare ed era svenuto. Meno male che in quel momento sono venuti quei carabinieri a trovarci, gli ho chiesto aiuto, aiuto, cazzo, cosa è successo? È caduto mio amico giù, loro sono scesi giù, mi hanno dato una mano, l'abbiamo portato su, era tutto fratturato, messo male. Dal giorno io alle rocce non le voglio più sapere. Meno male, era ora. Mi illumi, vabbè, la fatalità del caso, vai già, di notte era. E allora, di notte scivolato su quella merma, la salva che fa scivolare. No, vabbè, io lo stesso, già andavo prima di avere il bimbo, andavo molto spesso di notte, anche con lei, no? Però sempre con un po' di attenzione, perché sai, di notte non è come di giorno, quindi non sai dove cadi, ed è quello il brutto, capito? Quello che lui cadendo è svenuto tutti, se cadeva in mare sarebbe rimasto. Ci credo, ci credo. Avanti, chi è volevo entrare? Buonasera, dottore, bacioni. Beh, avete sentito. Ciao, dottore, come faccio così basso? Sono basso di segnale. Anche di statura. Grazie. Normale, là. Ciao. Veglia, dovete mettere a posto, sto bene. Tutto a posto, non ti preoccupare. Capo, se c'è qualcosa che non va, la vai, ditemelo, che qua ogni tanto il bimbo si mette a manovrare. Ah, quello che stavi facendo il psicologo, come l'hai detto, c'è qualcosa che non va, dite la me. Beh, finito non ci vuole. Il psicologo della situazione in radio. E allora? Che mania, qua. Eccolo qua. Aiuto, Antone. Sono... o non ti chiami più buon pugno? Sono piccolo, ho già avuto i ricca io. Sì, piccolo, basso e nero. Esatto, sì. Per carità, no, io, gentaglia, gentaglia. Santone non va a pescare. Se ti manca la canna, te la do io, Santone se va a pescare, pesca a lui. Spiritoso, va, spiritoso, Gianni. Chi sono andato quest'anno, ma poche volte. Sono andato dalla spiaggia e una volta dal molo. No, non sono più tornato. Dalla spiaggia proprio oratina l'ho presa. E anche due, come cacchio si chiamano? Due ombrine. No, io invece sono andato dove mi hai detto tu poc'anzi, più avanti della prosa, e mi ha boccato una bella tauta. E a mezz'altra che l'ho persa, e vabbè. E invece poi sono andato nel mese di, fammi fare due conti, allora, maggio, giugno, giugno dai, alla fine di giugno, che c'era quelle mareggiate lì a Platamona, ho preso due spigole. Ma sempre così a fondo? No, per dirti la verità, mi ero messo in testa di autocostruirmi un barchino di fargente, me l'ho fatto, mi ho preso delle misure, me l'ho autocostruito, diciamo, e ho fatto qualche chilometro camminando, perché sai, le prime esperienze, diciamo che ho buttato giù un po' di chilometri senza prendere niente, però poi ho fatto un po' di esperienza e qualche cosetta mi ha boccato, una dietro l'altra. Ci credo. Ma deve fare in modo che non si sposti, vero? Deve rimanere sempre allo stesso livello. No, diciamo che tu lo fai andare perlomeno dove sono le onde in canatta, quindi quando prende l'onda, anche se si capotta, per dire che è molto forte l'onda, deve essere tale che si rimetta in sesto e riparta, magari con un po' più di velocità per planare, poi deve rallentare un po' il passo e così via. Però devi stare proprio nelle onde, i pesciolini devono giostrarsi lì. Ragazzi, capito. E ne ho visto parecchi fare questa cosa, alle 6 di mattina, specialmente, quando andavo presto a pescare. Verso le 6 ce n'era uno di sorso che faceva il settimo pettine, e l'ho visto prendendo una bella lice a stella. Sì. Lo conosco, l'ho visto qualche volta, poi ho visto molto anche quello che ha il negozio lì al centro commerciale di attrezzatura di pesca, poi lo stesso ne prendevo, perché ho visto che aveva la saccoccia piena, ma qualche barracuda anche ha preso qualche cosa, insomma, si è divertito. Va meglio adesso, mi sento meglio, sì. Cosa, Antonè? Mi sento meglio adesso, va bene. Hai aumentato un pochino da 7 a 9,5, cioè voglio dire. Ok, va bene, non c'è problema. Se no non ti riconosco più come Pomponio, eh. Vabbè, non c'è problema, lo sai. O qua o di là, diciamo quello. Guarda, l'ultimo passaggio te ne sei sceso a zero, come radio non ci di più. E adesso come va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, come va? Adesso va meglio, Antonio. Ah, già, a proposito, sono andato a vedere quel negozio che ne stavamo parlando la volta scorsa, quello del mercatino delle pulci. Eia. Ma per carità, dai. Un bazare, no? Un montinaggio. Era giusto il primo periodo che c'era qualcosa di bellino, poi hanno venduto un computer per poche lire che c'aveva solo il tasto per al posto del, quello che c'è al posto del mouse, quello quadrato grande, quello lì che non andava. Ho detto vabbè, quello non c'è problema, io gli aggiusto il computer, se c'è solo quello e il resto funziona non c'è problema. Oh vabbè, 50 euro. Capo, io sono andato a vedere se c'era quel Misan che mi aveva detto tu, però poi non ho. Ho visto che c'erano per i mondetti, ma cosa, cioè ha giocato un giro veloce. Quello ce l'ha comprati Claudio, ce l'ha comprati tutti Claudio. Guarda che Misan ne sta vendendo, quello ne sta vendendo tutti e tre insieme, ne sta vendendo tre, un tecnico in portottone, si rivolge a togliere fuori, gli sta vendendo 75 euro l'uno. No, ma devo andare a casa di Claudio io, lo devo sequestrare uno. Sì, il 48, ma che lo vuoi prestare, ragazzi, me lo deve dare, perché sennò gli incendio tutta la baracca. E quello modificato? Seglia. Hai visto, Vito? Però vuoi mettere in macchina? Sì, lo voglio provare. Voglio. Senti, mi sta arrivando il pallino di metterlo in macchina e anche perché così a vedere un po' questa radio qua sin dove si ascolta. Appagato. Ma perché tu fuori sì? No, io sono sempre zona bancaria, quindi non è che sono abbastanza vicino, però sai, a me è sempre piaciuto, non è, purtroppo lo sto utilizzando poco l'apparato, per il semplice motivo che rientri tardi al lavoro, magari stanco, e tra una cosa e l'altra, dei problemi familiari, e sei un bambino, e quello e quell'altro, insomma, quindi ho giusto il fine settimana che magari accendo, non c'è neanche nessuno, quindi cosa ce l'hai a fare? Io sai così, che d'estate a tutti piace andare in giro, c'è caldo in casa, quindi molte volte anche tra di noi con Claudio andavamo a prendere una cosa, di notte, cosa, però non piace tanto stare alla radio chiusi in casa d'estate, invece d'inverno, con la scusa che sta piovendo, sta facendo brutta giornata, c'è Calamaieggi e via. Sì, che lo capisco già, ma io sono il primo che quando ho la possibilità mi faccio tre giorni fuori di casa, non è che me ne faccio uno, mi faccio venerdì, sabato e domenica, rientro la domenica sera verso le 7 a casa, ti pare se ho la voglia di accendere la radio e starmene buttato qua sopra il divano, no, però quando ce l'hai, magari sei vicino al computer, lo accendi, lo vedi sempre, sempre con lo smitto al ferro, ma che cacchio lo tieni a fare, che è il camper ancora c'è? non offendiamo, io non ho il campo, io ho una roulotte. Ah, oh, io mi ricordo che tu dovevi cambiarla, se non sbaglio, che mi hai detto che avessi un camper su internet e te lo dovevi prendere. No, avevo un'altra roulotte che l'avevo ripristinata, l'avevo pagata 1.000 euro. L'avevo ripristinata, l'avevo fatta quasi agibile, l'ho usata per un anno e dopo un anno l'ho venduta a 2.500 euro. E con questo soldino ne ho preso un'altra da Palermo tramite mio cognato, che l'avevo vista sempre su internet. L'avevo vista, l'ho guardata bene, l'ho fatto contattare e me l'ha scesa lui qua in Sardegna. Adesso ce l'ho già 2-3 anni questa, ma è nuova, se la vedi che è tenuta benissimo. Però c'è da dire una cosa, che la famiglia si sta allargando, la ruota è piccolina, quindi giustamente non è più come quando andavi in due con un bambino piccolo. Adesso anche Gabriele ha già 6 anni, le sue esigenze, vuole giocare, vuole fare, ho dovuto togliere un letto anzi, perché mi occupava spazio e basta, no? Quindi no, da 4 l'ho portato a 3 come posti letto, perché c'è un matrimoniale e un posto singolo dall'altra parte, l'altro era tipo letto a castello, capito? Quindi mi prendeva spazio e me l'ho tolto. Se Dio vuole che il lavoro va avanti, ci faremo un pensierino, adesso ci va bene quello ancora. Comunque ti piace, dai, hai toccato con mano la vita del campidista, quindi, o del rulottinista, diciamo così. E quindi hai toccato con mano, sai che ti piace e puoi sempre decidere anche di comprarti un camper grande. Ma guarda, già io la vita del campeggiatore l'ho fatta dall'età di forse 13 anni, dai 13 anni in su, 14 anni, sempre in campeggio, anzi forse anche da quando ero più piccolo l'ho fatto con i miei, che facevamo il campeggio, ma non di un mese, no, ne facevamo di 4 mesi di seguito, quando allora c'era la così chiamata Platanoa Beach, che allora si facevano dei campeggi lì. Addirittura mio padre andava, apriva il bar, scendeva alle 2, mangiava lì al quarto pettine con noi, poi ripartiva alle 4 e scendeva a mezzanotte quando chiudeva, faceva la chiusura, no? E poi di 9 la mattina, lo stesso, alle 7 e mezza doveva essere al bar, quindi faceva la notteria, insomma, diciamo che l'ho conosciuto da ragazzino. Questa vita che sto facendo con la roulotte mi piace, però ci stanno, come si suol dire, chiudendo un pochino i viveri, perché non puoi aprire un finestrino, non puoi metterti una veranda, sei costretto a parcheggiarti lontano e non avere né tavolini né sedie, perché sennò, sai, l'impatto ambientale, questi barrancini ci hanno rotto le scatole, tra virgolette, se trovi quello che riesci a capire, perché ce ne sono parecchi che non capiscono un cacchio. Lo so. Quindi non puoi muovere nulla fuori, devi stare tutto all'interno della roulotte, non ti puoi vivere la vita all'aperto, secondo loro. Basta metterla in un punto un po' nascosto. Sempre anche che il fatto che ci sono tutti i parchi di campeggio a pagamento, non ti fanno più fare coso libero. Diciamo, prima con la roulotte si poteva andare a tutte le parti, adesso solo a pagamento, è quello che c'è. Invece, vabbè, anche il camper è uguale. No, vabbè, scusa Tony, poi riprendi tu. No, non è proprio così, nel senso che io, per dire, con la roulotte che ho, che è un 4,40 m, più ho un metro di timone, quindi sono già 5,40 m, più la macchina mia, che sono 3,5 m, senti, sto prendendo un bello spazio, perché tu non mi permetti di staccare la macchina, quindi io non è che mi metto di punta, cioè fronte mare, io mi metto di lato, in maniera tale che prendo 3-4 parcheggi, sono un 5 di macchina normale messa di punta, e non faccio parcheggiare gli altri. Ma questo perché? Perché lo vuoi tu, Barracello, che non mi fai staccare la roulotte. E un'altra cosa, non mi permetti di mettere la tenda, tipo casetta, no? Che si attacca lì alla roulotte. Quindi te lo faccio apposta. Tu cosa fai? Vieni, mi controlli oggi. È tutto in regola, io non sono stazionato, quindi non mi puoi fare niente. Però mi puoi dire una cosa, se vengo domani sei di contraddizione. Attenzione, se tu vieni domani, io mi sposto di un metro, non mi puoi fare un cacchio, perché io mi sono spostato, giustamente. E un'altra cosa ancora, non sei come il camperista che piazza la tenda per 2 o 3 notti, perché il camperista che piazza la tenda anche 2 o 3 notti o anche una notte, quando gli scappa la pipì o la cacca, tra virgolette, questo si scappa in un cespuglio e la fa. Io invece la cosa me la porto a casa. Attenzione. Ci sono quelle puttessitiche, di quelle che si non so come sia, roba chimica che riesce a eliminare il... Ecco, sì, è registrato. Sì, sono dei voci chimici che, però anche quelli hanno un limite, non è che puoi stare un mese cagandoci dentro, voglio dire, arrivi a un certo punto che poi anche quella lì si piena. Sono da 25-28 litri, poi devi per forza svuotare, però voglio dire, non sì, come quello che, quelli che intenda, che se ne esce in tenda e fa il bisogno lì, in terra, tu lo fai nel tuo WC e poi quando smonti, che ci saranno anche, c'è una maniera tipo il camper Civic, che vai, scarichi e rimetti l'acqua, sei a posto. Avanti, prego. Papà, buonasera, riprendo il QRX, Antonio Grobbe. Ciao! Ho finito con la battaglia, no, che diceva, ammazza e fuggi. Capito, già, hai capito, ammazza e fuggi. Ho vinto la battaglia. Addio, che gioco hai tu? Il gioco del... Di mafia. Di mafia, hai capito. Guarda. Mamma mia, mitragliati tutti. E allora, con questa PSP si sta facendo giochi di mafia, gioco di delinquente, gioco di Spider-Man. Yeah, tutti così sono, tutti così è il mio. Se tu lo lasci 24 su 24 giocare ci resta. PlayStation, poi c'è Nintendo DS, insomma, ma tu non c'hai questi problemi. Anche io la intendo di essere solo che è spaccata. L'ha detto babbo, ma sta cercando di aggiustartela, se ci riesce te la aggiusta. Vai a giocare, vai. È così già, hai capito? Ah, e non solo. Per quanto sono venuto a sapere, adesso non ti farò entrare né a Cagliari proprio, cioè tu o camper o roulotte non puoi entrare. A Fentino già ci sono le zone in atte, praticamente in queste devi andare o nel camper service o in zone attrezzate per poter stare con l'abitacolo, perché ora viene definito come rom, capito? Io tra poco vogliono che paghi anche l'aria che respiri, non puoi fare più nulla, non ti puoi muovere, sembra che non sei un terrestre ma che sei venuto dalla luna. Avanti, Campadiero, io non sto seguendo il vostro discorso e poco ne capisco perché ho fatto poco radioascolto, quindi non so di cosa stiate parlando. E comunque bisogna stare attenti, ogni 3 ore, un quarto d'ora bisogna farglielo prendere di sosta ai bambini che giocano a questi nuovi videogiochi. Sì, è quello che stavo dicendo io, vogliono... Io a volte a Marco glielo prendo, grida, urla, sembra quasi che gli stia staccando il cuore quando glielo prendo. Se tu gli vuoi fare un dispetto, prendi il Nintendo DS, perché lui vi carte di Pokémon, Nintendo DS, computer, tutte queste cose di calcio, è tutta tecnologia. Ma alcuni di quei giochi sono anche pericolosi, nel senso che a parte che non li vedo così tanto istruttivi, ma non è che voglio fare il pacchettone, è che è importante non confondere la realtà con la fantasia, e se non sono controllati, ma non credo che sia assolutamente cosa che vi riguardi a voi assolutamente, però davvero, cioè, il bambino può non capire bene le cose, dai. No, no, ma c'hai ragione, tu. Hai ragione perché sono dei giochi, io quando l'ho preso questo qua, diciamo che non è che mi sono mezzo pentito perché piacciono anche a me, però ci ho pensato più di una volta a darglielo in mano. Giustamente è un gioco che sparano, si picchiano, balle varie, in inglese, quindi bene o male le parolacce ancora lui non riesce a leggere l'inglese, giustamente. Però quando mi dice ma cosa c'è scritto, io cerco di semplificare sempre ciò che leggo in cose stupide, capito? Nel senso che non è che gli dico devi andare dalle prostitute a prendere i soldi, capito? Cerco di semplificare un pochino meglio quello che leggo. No, assolutamente, assolutamente, però indubbiamente ci troviamo un po' nella società della violenza, dove imparano che certe cose non vanno più discusse, ma bisogna passare subito dalla ragione ai fatti, capito? Ed è un po' così, di questi giochi ne sono un po' l'esempio. Aspetta un attimino, scusate. Ok, avevo un po' di disaccordo. Mi sento giù di fase, ragazzi, ma stai dicendo dei voci? Sì, nel senso che mi sembra in mezzo addormentato. No, negativo, c'ho la 25 a fianco addormentata. Ah, ecco. Ho capito. E tu stai parlando piano per me. Oggi mi sarei dovuto essere al lavoro, invece ho saltato perché c'è voluto tempo. Spero che domani si rimetta, non c'è domani e dopodomani. Cosa non c'è? Cosa, come si chiama? Sant'Anatolia, carica. E cosa c'è di bello? E non te lo so dire realmente quali siano le attrazioni, però credo che ci sia qualche gruppo, non so se ci sono di nuovo gli Equipo 84, io l'ultima volta avevo visto Cristian Cocco e aveva fatto davvero un bello spettacolo. Sant'Anatolia non è a Monte Oro lì? Fai Roger, carica, si vede tutto Monte Oro lì. Canica, boh. Ma dove si passa? Io mi ricordo vagamente, ma mi ricordo che era verso Monteo. Allora, è presente, come si chiama, il Tanit, tu gli passi a fianco, vai verso Canica, quindi arrivi alla chiesetta, il bar del fascista sulla destra, tieni diritto, a un certo punto arrivi alla frazione proprio, dove ci sono 3 o 4 case, anzi no, proprio dove c'è il bar, superato il bar, giri sulla destra ed entri dentro Canica, continui a tirare, lasciandoti il campo di calcio, o la meglio la scuola elementare sulla destra, continui a tirare dritto finché non arrivi su a Sant'Anatolia. Capito, adesso mi ha rinfrescato la memoria, perché una volta ci sono stato, sì, ho capito dove, si può passare da entrambi le parti, dai, si può passare da tutte e due le parti, perché noi eravamo usciti proprio da Canica, adesso me lo ricordo, c'è una frazioncina appunto lì, e siamo andati a vedere a vedere come si chiama, i nomadi, ma ce ne siamo dovuti andare subito perché mia moglie si è sentita male, quindi sono dovuto andare via. Questi nomadi io non riesco mai a sentire Vagabondo, che è la canzone che mi piace di più quando la canta. E l'altra volta si è messa a piovere, Campaletta. Questa volta si sentiva male mia moglie e quindi ce ne siamo dovuti andare, ma prima un casino per arrivare, per trovare il parcheggio, da voi, se abbiamo ascoltato 2 canzoni ce ne siamo dovuti andare. Vabbè, già, se ti consola te la canto io, No, che già, c'è brutto tempo, sì. Vabbè, dai, signori. C'è Antonello in parcheggio, io vi mollo perché ci sono le bollette che stanno abbassando e domani mattina devo fare qualche cosetta a casa, devo approfittarne se non piove, che ho fatto una finestra per la cameretta del secondo bimbo, solo che se piove mi dà un po' di fastidio per terminarla. Va bene, signori, divertitevela, fate entrare quel poverino di Antonello, se no si sarà addormentato, e poi ce l'ha con noi. Ciao, buonanotte. sei atti. Quindi è imminente la storia, buonanotte. Imminente cosa, già? La nascita. No, no, ho già partorito, ci abbiamo 7 giorni qua. Ah, io avevo capito che era incinta. Allora, auguri, auguri, io non sapevo nulla. Io pensavo solo che fosse incinta tua moglie, tu mi hai detto ne abbiamo un altro. Io pensavo in arrivo. No, no, è già arrivato, è già qua, e ci sono già un paio di minuti che non sto dormendo, siccome è bravo vorrei cercare di chiudere un chiodo al più presto prima che si metta a piangere nuovamente. No, ha partorito il 5, siamo andati alle 4 del mattino e poi invece ha partorito l'indomani mattina all'1 25, sì. Ma quindi che fa tutta la notte? Tutta la notte lì e poi ho tirato avanti per tutta la settimana, sono rientrato martedì al lavoro. Vabbè, adesso pensato tutto bene. Appagappa, questo qui pure è maschietto. Allora, oh yeah. Adesso cercando la femminuccia, come ha fatto mia madre per il maschietto, te ne fatto i 4. No. Guarda, a me i bambini piacevano troppo, poi addirittura quando eravamo fidanzati parlavamo sempre, guarda, la famiglia, due maschi e una donna sono l'ideale, e diciamo che siamo una buona strada. Quindi non c'è 273. Ma vediamola, adesso godiamoci questo, poi si vedrà. Kappa, auguri, dai, crescere bene tutto quanto. Allora, metti, buonanotte, dai, riprendi Alice. Prendo io. Ciao Tino, buon QRT, buon 144, quando lo fai ci sentiamo le prossime, dai. Vai Gianni. Bene, aspetta un attimino. Ah, si sente. In lontanato, la camera è un po' lontano. E già si sente. Sta chiedendo a mangiare adesso. Vabbù, ciao, divertitevela. Come tu bello, ci verrà mai. E se no me ne vado in camera di Gabriele. Vabbè, siamo passati tutti avanti grande, a te tocca adesso. E adesso come capisco come si fanno già, neanche anch'io ovviamente, mi ha trinto. Ciao Tino di nuovo. Cosa si vende, diciamo, sei in ferie? No, assolutamente no, non sono in ferie, sto lavorando. E le ho già fatte le ferie, le ho fatte a fine luglio le ho fatte. Ma fra l'altro ti volevo dire, ti richiedo scusa per non averti richiamato per quella cosa per cui avevo chiesto la collaborazione di tua figlia. Il problema è che in questi villaggi turistici, mentre io volevo fare una cosa esclusivamente perché ne avrei avuto un tornaconto, perché affitto la casa e quindi di conseguenza più ti crei diversivi agli inquilini e più il prossimo anno c'è la possibilità che ritornino, invece c'era chi voleva fare cassetta, voleva fare soldi, e quindi con la mia organizzazione, capito, lui voleva mettersi a girare i panini a fare cose per guadagnarci lui, e allora no, non è andata in porto, eh. Vabbè, ma me l'avevi già spiegato, tanto che ce l'avevamo già sentiti, già spiegata la situazione. Ma vabbè, tanto per me la già sta girando, cantando un po' da tutte le parti. Sta lavorando anche con Telegia, eccetera, eccetera. Quella è la gavetta, che non la veda come un punto d'arrivo, perché Telegia è la scelta che trova, va bene per abituarsi alle telecamere, a tutta una serie di cose, però parliamoci chiaramente, è una città, cioè è una rete televisiva di paese. Vabbè, ma dico. Qualche soldino se lo sta facendo, così capito. Quando canta con Telegia è pagata, non è che lo fa gratis. Ma lo fa Telegia in quale trasmissione? No, lo fa quando fanno spettacoli, sfilate di moda, per dire, l'ha fatto alle Dembici, l'ha fatto Casa Serena, hanno fatto lo spettacolo, insomma, un po' da tutte le parti, l'ha fatto al Teatro Verdi. Avevo cantato, una delle ultime volte avevo cantato a Sassari, lo stesso l'avevo fatto per beneficenza con Laura Mamia lì a Casa Serena. E adesso ultimamente dice che c'era anche una commedia fatta con gli anziani, cioè che era veramente bellina la storia. E niente, prima la volevano fare la commedia, poi non so che cosa sia successo, l'hanno chiesto solo di cantare, e ha cantato, meno male, perché se mi occupava anche troppo. E a tutti questi anziani la volevano inserire a fare la commedia, ho detto, ma io non posso fare l'uno e l'altro, un casino, e non c'ho tempo, devo anche studiare, quindi... Insomma, ma già si sta dando da fare, si sta divertendo, non è che non lo fa perché le piace cantare, lo fa anche in casa a cantare, sta sempre cantando, infatti anche Marco la prende in giro. Per la felicità dei vicini. E non gliene frega proprio nulla. Mi hanno messo anche la lettera dal condominio di abbassare il volume del karaoke, di questo, dell'altro, non gliene frega nulla, glielo puoi dire mille modi, abbassare il momento, poi prendere un reato. Un problema che ho avuto anch'io, quindi capito, è un problema che se lo devi fare, ti devi allenare ogni giorno, anche perché nel gergo del cantante si dice che se tu smetti di studiare un giorno te ne rendi conto tu, se smetti di studiare due giorni se ne rendono conto gli altri. No, ma poi quando per dire deve fare, praticamente si fa le pennine per fare, diciamo, se deve cantare 4-5 canzoni, se ne prepara la pennina, le prova, capito? Non può andarci a digiuno di tutto, è normale che debba provare, fare. Su cosa? Su YouTube non c'è niente. Di che cosa? Di Manuela? No, non penso che ne abbia messo. Non è che gli piaccia molto fare... su YouTube non penso. Mi sa che ha messo, una volta l'ha messo su eBay un paio di foto e basta. Non è che si faccia molta pubblicità. Se vuole, a proposito, guarda, come regalo per il padre gli faccio questo. Se vuole fare qualche scatto per fare il composite, non c'è problema. Te lo chiedo, non c'è problema, me lo chiedo se lo vuole fare, ma diciamo che lei lo fa più che altro per passione, non è che lo fa, perché poi a me mi interessa che lei studi, che si dia da fare, ha fatto il secondo test per medicina, ma a quanto pare lì se non va in cuffia. Come fatti la sciaperda? Guarda, le professioni sanitarie sono un po' più facili, ma medicina proprio non ce n'è. No, sono tutti figli di dottori, figli di cosa, no? Se non è che c'è l'incontro. Sì, adesso sta facendo qualche cosa come tecnico per l'ospedale. Vuole fare tecnico così, vediamo un pochettino, ha dato l'esame ieri. A quanto pare è andato bene, però sempre, sai, ci sono gli ingozzati, quindi bisogna avere... Non ho capito tecnico di che cosa, non ci avrà la mia stessa indirizzo? Sì, quello lì. Beh, tecnico della prevenzione, ambiente e nuovi lavori. Ma magari. Vero. Adesso ha fatto, diciamo, un preesame, qualche cosa per inserirsi, non lo so cosa sia. A quanto pare è andata bene. Che cosa il test avrà fatto? Quella è ultima, cioè se riesce a laurearsi in quella è buono, a me mancano 5-6 esami. Vabbè, ma sei fuori corso? E un anno e mezzo, dai. Vabbè. No, lei ispirava molto a fare medicina perché gli piace, però è un casino di avere un medico. Poi ha detto che fanno delle domande allucinanti, c'è trabocchetto, anche, vabbè, dice, sono a livello di filosofia, bisogna, se una volta che lo fai, se come sono le domande ti viene anche più facile, però a primo impatto uno non ci pensa, capito? Guarda, i test vanno saputo affrontare, e quelli di medicina sono talmente selettivi, negativo, poi perché alla fine non selezionano le persone giuste, non sono meritocratici, perché sembra quasi che debba essere già laureato in medicina, già laureato in chimica, già laureato in tutta una serie di cose, perché sono difficilissime, ti servono solo per scremare la gente. Fatto sta che nei test a risposte multiple c'è di solito una domanda che è proprio sbagliata, una domanda che rassomiglia all'origine alla vera e poi quella giusta. Sta a eliminare subito la prima e dopodiché giocare da sotto dei due. Il problema è che in quelle di medicina adesso, in questi test qua, stanno mettendo anche risposte multiple fino a 5, con due o tre domande comunque giuste, e devi saperle individuare. Sì, sì, sì, me ne ha detto una adesso che non mi ricordo, ma potevi interpretarla in 100.000 modi, capito? E ho detto, come avresti risposto a questa domanda? E gli ho detto, è semplice, no papà, non, bisogna interpretarla in un'altra maniera. Dice, uno vabbè che va la prima volta non lo sa e avrebbe risposto come te, però se ti abitui a sapere come sono impostate le domande, perché sono tutte a trabocchetto. Se lo so, ma ci sono anche indovinelli abbastanza stupidi. Ad esempio, io me ne ricordo uno e forse ti ho già fatto. Se vuoi te lo faccio, eh? Dimmi. Ora, tu immaginati che c'è una foglia che cade in uno stagno e ogni giorno raddoppia le sue dimensioni. Se è se al 30° giorno ha coperto completamente lo stagno dalle sue dimensioni, in che giorno avrà coperto la metà? A metà mese, il 15 del mese. Sbagliato, è troppo semplice, sarebbe. E per logica è così? Non è negativo, no, proprio per logica non è così. Lo ripeto, una foglia cade in uno stagno e ogni giorno raddoppia le sue dimensioni. Se il 30° giorno ha coperto tutto lo stagno, in quale giorno avrà coperto la metà? Sarebbe. Quale sarebbe secondo te? Ti dico che raddoppia ogni giorno. Se il 30° giorno ha coperto tutta la superficie, la metà quando sarà coperta? Ci arrivo, Anto, non aggiungare, mi sava. Cazzo mi sa, scusa, se il 30° giorno ha coperto tutto lo stagno, la metà dello stagno l'avrà coperto il giorno prima, no? Se raddoppia. Quindi il 29° giorno, però tutti pensano il 15°. Non l'hai ragionata, però, per pensare così. Uno ci fa pensare tutti la metà sì. Vuoi dire, in due mani, quante dita ci sono? In due mani sono 10. E in 10 mani? Fai 10 per 10. Come vedi che hai sbagliato di nuovo? Beh, adesso ragionare adesso è un po' così, perché ho la testa un po' quasi drummita. Comunque fanno dei conto di quello, perché tu pensi a 10 mani, cioè se due mani hanno 10 dita, poi ti fanno per 10, quindi 10 per 10, invece 10 per 5. Vabbè. E infatti sono trabocchetto, non è che se uno non sa come sono impostate le domande. Oh, anche se ti capita quel tipo che avevo visto a Porto Torres, micidiale. Entra questo, sono entrato in una ferramenta un giorno, ed entra questo qua, mi piaceva le mani, tu ce l'hai grandi, questo ce l'aveva una volta e mezzo le tue. Ti conto le dita, così per cosa, minchia, ne aveva sì, ma tutte funzionanti, perché c'aveva una mano che sembrava una palla di figurine. Sei dita alla mano? Una mano, in una delle due mani, evidentemente aveva una malformazione, però ce l'aveva perfette, proprio di solito sono delle protuberanze che poi alla fine vengono tagliate chirurgicamente perché danno fastidio, perché non sono movibili, capito? Questo proprio c'aveva il metacarpo, che è l'insieme delle ossa della mano, quindi aveva una in più. Cappagappagà. Nome metatarso. Metatarso al piede. Capo, sì, si ragiona. Capo, metà capo, frangia, frangina, frangetta, si ragiona. Se invece il pollice cosa c'ha? C'ha la falange, no, il terzo è metà tarso. Creativo, c'ha la falange, mentre le dita c'hanno falange, frangina, frangetta, il pollice c'ha falange e falangina. No, è falange e frangetta. Manca l'osso del centro. E ha due ossa, infatti. Ma non mi ricordavo quali era. Ma io che sei cotta, vai a letto. No, sono un po' stanco, me l'ho detto. Ho trabagliato un bel oggi. E vabbè, comunque la tomba che non entra verrà, che quindi adesso l'accendo. adesso le faccio una scorpacciata, e figurati io, stamattina, allora, stanotte non ho dormito, e stamattina mi sono svegliato, cioè mi sono alzato alle 4 per accompagnare i miei suoceri all'aeroporto, alla Ulbi. Appaga. E quindi sei cotto. Quindi io ho visto che cos'è quella strada e non invidio i colleghi camionisti che sono minchia ogni giorno, però rischiano la vita, è una strada davvero di cacca. Oddio, ma non hanno ancora fatto la strada nuova, dovevamo fare la strada nuova, hanno dato anche diciamo qualcosa di finanziamento. No, politicamente noi stiamo cercando già da tempo da Cagliari di tagliarci fuori. Di eleggere Olbia come la nuova città del Nord Sardegna, ma perché c'hanno più introiti, capito? Investire su Sassari è fallimentare, quindi loro investono molto su Olbia e la strada Cagliari-Olbia l'hanno rifatta. La strada Sassari-Olbia da una vita ed è sempre a due corsie. Non male che quello della VDV sta continuando, noi stanno già asfaltando, hanno fatto già la rotatoria lì dove c'è l'incrocio, non so se l'hai visto. No, ma se dovesse capitare quello, io l'appartamento che ho sopra il latte Dolce Market me lo vendo come casa al mare, figurati, ci vogliono 5 minuti a scendere. Sì, ma è un po' lunga secondo me la studia, non tanto all'inizio e dall'altra parte, però al centro dove ci sono le case che sono che danno quasi sulla strada, non so come fanno, se taglieranno e mettere, faranno andare la strada dall'altra parte. La vera vergogna comunque adesso, perché hai parlato appunto di mare, di spiaggia, lì devo dire, madonna ragazzi, ma la vera vergogna è che sono passate 3-4 generazioni, 3 generazioni almeno, i politici che ancora non riescono a cavarli in piedi, a buttarlo giù, almeno dico buttatelo giù e fate tutto spiaggia libera, nulla, una toppaia. Proprio guarda, un biglietto da visita per chi viene qua a vedere una cosa del genere, tutto pieno. Io mi ho preso anche cosa di entrare, ma se vedi cosa c'è dentro è diventato un cagadugio, scusando la frase. È una vergogna, è davvero una vergogna. Io, a dirti la verità, gliel'avrei tolto quel tratto di spiaggia ai sussinchi. Mi dispiace, ma c'è troppi affari, troppe cose. Ma poi, a questo punto dice, siccome siamo così noi sardi, mi diciamo fra di noi, alla fine arriva quello di fuori e fa. Anche in quel caso c'era una ditta toscana che voleva fare, che voleva mettersi in acqua, voleva prendere l'appalto. Non gliel'hanno dato, piuttosto rimane una mondezza come il cane del verduraio, non ne mangia e non ne fa mangiare di verdura. Sì, sì, sì, è così. Mi hai tolto le parole di bocca, poi magari viene un imprenditore da fuori e futti a tutti i canti. Quando ci abbiamo, era forse uno dei pochi posti dove si andava a ballare di notte, sulla spiaggia, lì c'era il posto per ballare, c'era il bar, c'era tutto quanto. Io mi ricordo ancora quando c'era la piscina con l'acqua del mare. Era quella per i bambini, quella che c'era al centro piccolina. Lo ricordo anch'io perché c'avevo il casotto lì vicino, quelli che hanno buttato giù nell'84, mi sembra, 83 forse. Beh, anche quello, secondo me hanno fatto una grossa cazzata, perché anche quello riempiva la spiaggia, mi dava un certo progresso per un deserto, per carità. A parte che l'ha controllata, vabbè, però alcuni di questi casotti erano davvero cose fatte col cartone, capito? Ne vedevi alcuni che erano stavano in piedi per miracolo, alcuni erano fatti davvero molto bene, ma altri per carità. Che poi il controsenso è che ogni anno ci chiedevano, cioè veniva la capitaneria del porto e ti faceva pagare solo pubblico, quindi nel momento in cui tu mi stai facendo pagare solo pubblico mi stai autorizzando a rimanere lì, cioè lo stai in qualche modo facendo passare per una cosa legale. Perché me lo butti giù allora? È anche vero che però c'era un po' di padronanza, perché se tu ti avvicinavi magari sotto perché c'era l'ombra e cose, ti dicevano cosa, io me lo ricordo bene, ero un po' ragazzino, però mi ricordo in particolare, c'erano alcuni casotti magari che se ti avvicinavi troppo ti dicevano, ti facevano allontanare. quello non andava bene, però diciamo che dava una certa tonalità, anche il fatto che c'era il Barbaristella lì e tutto quanto che lavorava, adesso è diventato un ristorante, ma non so se da che punto lavora. Beh, non lavora no, perché con quella foglia che c'è a fianco, figurati, ma nemmeno meno non sta lavorando il Toluca, che poi è fallito da tanto tempo. Eppure il Toluca era anche residenza per gli anziani e non è andato avanti per quel motivo, non c'è spiaggia lì. E il Barbaristella me lo ricordo, figurati, i proprietari poi adesso li trovi, c'hanno un bar in corso Vico, se non sbaglio. Non lo so, però adesso ho visto che è diventato un ristorante, però non so se lavori, l'ho visto sempre vuoto, dico la verità, quando sono passato l'ho visto sempre vuoto. E uno del Brasile, tutti quelli che erano famosi lì, lavoravano anche per le gabine, io dico la verità, perché molta gente andava lì e cose, della gente anche che aveva la gabina lì, si prendeva il gelato, si faceva la passeggiata, capito? E tutto insieme, e portava su. Non so se ti ricordi che c'era la panetteria di Zia Marta, che era quella che adesso, dove c'è il bar, che ci sono quei due bar ammaiati, adesso uno ha preso fuoco anche. Sì, ho capito. Quello gli dava comunque un servizio, capito? Vicino dove c'è il pescatore, che è un altro ristorante che non so se stia ancora lavorando o cosa. Pescatore non lo so, però io me lo ricordo, in quella rotonda lì c'era il bar tabacchi, che adesso non so se stia ancora lavorando, perché qua anche a Sassari io mi ricordo dei negozi, vado a comprarmi la roba, boh, e non c'è più, tutto cambiato. E infatti sono passato un paio di giorni fa in via Roma e hanno chiuso il bar famoso, quello, non si chiama il 3B, c'è via Roma, come si chiama, ci hanno messo una banca. Il 3B, sì, quello che rimane, quasi di fronte a De Lugo. Però no, di fronte a De Lugo, esattamente all'angolo, e che hanno chiuso, hanno messo una banca. Vado già domani così, Stavo vedendo tutte queste cose che hanno fatto storia, boh. Stanno chiudendo tutti i negozi grossi, non si capisce più nulla, boh. Ho anche un amico che si sta sempre lamentando, lo stesso che stanno vendendo poco, ha fatto volantinaggio per incrementare un po' la vendita, invece già è tutto muscio. Ma poi secondo me la stoccata finale gliela data la zona del TTL. Capito? A proposito, mi hanno attaccato una multa per colpa di una persona, la ragazza sua. Perché ti ha fatto girare lì? No, negativo, siamo andati a fare una piatta organizzata dalla associazione cooperative sociali, una cosa del genere, se non ricordo bene, ma ti parlo dei primi giorni di luglio. Abbiamo comunicato agli organizzatori la targa, questi ci hanno detto che non c'era problema, un paio di giorni fa mi arriva la multa. Capito, era entrato in zona del TTL senza essere riconosciuto dal computer. Allora tu sai cosa fai, perché è già successo anche al padrino di mia moglie, che praticamente ha il permesso di entrare nella TTL perché ha la moglie che è invalida. E praticamente lui ha dato la targa e tutto quanto, gli è arrivata lo stesso la multa. Lui è andato là e li tolgono, praticamente gliela tolgono, capito? Quindi dovresti fare la stessa cosa, tu dici che hai questo permesso, tu hai un permesso scritto? No, purtroppo questo pezzo di cacchetta. Cosa è successo? Che mi ha chiesto il numero di targa, o non l'ha comunicato, o l'ha comunicato male, fatto sta che non mi ha dato poi comunque niente, mi ha detto solamente non c'è problema. Dopodiché voleva, perché di queste cose nella strada ne vedi, voleva una tangente per lavoro, perché secondo lui avevamo lavorato un bel, invece credimi, avevamo girato due soldi e di morale non gliela abbiamo dati. Se ti dico cosa mi ha chiesto, è una cosa vergognosa. Fatto sta che quindi non posso neanche andare a dirgli a protestare per questa cosa, capito? Però sempre bustarelle quelle sotto, perché hanno lavorato la costruzione. Come fate una cosa vergognosa? Guarda, ne vedi tutti i colori, me l'esperienza che sto avendo in quest'anno non me la sono fatta in 39 anni, capito? Boh, è sempre più marciuolo. Poi sai, in questa condizione di difficoltà ancora di più, ma dico, se questo qua che dovrebbe garantire, perché l'organizzatore, il presidente dell'associazione, se non mi ricordo chi, non voglio fare il nome, però, delle cooperative sociali, e poi ti viene a chiedere una cosa del genere, uno al limite ti può chiedere un contributo, non una cifra conta, cioè voleva 200 euro per 4 ore di lavoro, dove io ne ho fatto la metà. Offerta per l'associazione, ecco. Stiamo raccogliendo le offerte, se la vuole dare, ecco, un'offerta, gli puoi dare 50 euro, ecco. Gli ho detto che era passato un amico e lui aveva dato l'incasso per sicurezza, gli avevo detto guardi io non ho incassato, ma la verità di quel giorno avevo incassato 70 euro, 50 adesso 100 euro forse, e lui mi ha detto vabbè allora almeno facciamo metà, è venuto miserabile, quindi dicevo facciamo metà anche con quello che ho speso, no, dice solamente gli utili, vabbè. Ma stasera non c'era nessuno dopo cena? Sì, c'era Tino, c'era Alessio, c'era entrato quello, vabbè, poi ha salutato, no, ma sì, un po' di gente è entrata, c'era Salvatore, perché c'era Fabrizio. Io ho capito, si sta riaccendendo dopo l'estate, dai. Vediamo, perché io, guarda, a me mi stava passando proprio la voglia, dico la verità, non ne accendevo nemmeno, perché tanto sapevo che se vedevo QRM, buh. Quindi stasera sono sceso in macchina, ho acceso, c'era Claudio, c'era qualcuno e allora ho chiamato e poi dopo cena l'ho riacceso, ma se no mi stavo sempre guardando la televisione, poi da quando ho preso questo televisore sto prendendo gusto a guardarlo, prima non ne stavo più guardando il televisore. Invece adesso stai guardando? Mi sto prendendo più gusto, mi sa perché, abbiamo preso un po' di film in 3D, è una novità perché, dico la verità, qualche volta l'avevo visto quando andavo da Media World, così mi provavo, ecco. Ma adesso ci sto prendendo veramente gusto, mi ha appassionato un bel il fatto dei 3D, mi piace molto. Fatto vedere questo qua che facendo una critica sembra che ti dà il calcio in faccia, con la gamba che la punta verso avanti e sembra che ti dia il calcio, la neve che esce fuori dallo schermo, che è allucinante. Ma i giochiali sono passivi o attivi? Dei passivi. Te ne vuoi te ne do? Ne ho 14 paia. E allora non hai bisogno, c'è il cinema, c'è. No, non ho preso il CD attivo, il DVD attivo perché a me mi ha spiegato l'ottico che, guardi, stavo parlando con l'ottico perché sono andato a fare degli occhiali e mi ha detto guardi quello attivo fa molto male perché si accende e si spegne continuamente, spegne uno che accende l'altro praticamente, fa intermittenza, ti fa vedere intermittenza queste luci. È praticamente per dare l'effetto del 3D, diciamo che dà un effetto di profondità superiore, poi dice che sfotte molto la vista. No, ma infatti assolutamente i danni di queste cose li vedremo fra un po' d'anni. Comunque io invece ho due proiettori per fare il 3D, proprio tanto è vero che io ho fatto un servizio alla facoltà di medicina di cui forse te voglio parlare. Quindi dico, gli occhiali ne ho tipo 300, una cosa del genere. Però ci vuole uno schermo, quando c'è i proiettori passivi ci vuole uno schermo ai granuli d'argento che costa un bel soldi. Ma non lo so, io ho preso questo televisore e ti dico la verità, si vede benissimo, non bene. Io li vedo tutti gli effetti perfettamente, va. Ci sono delle cose allucinanti, ci sono comunque dei film che si vede molto di più il 3D, in certi altri la profondità si nota meno. Ho capito. Oh già, mi sa che abbiamo fatto serata, sono le 11 e mezza. Cioè, domani mattina vediamo cosa ne devo fare, mi devo lavare i macchinari, perché domani sera c'è guerra, sperando che cambi il tempo come il tempo domani. Ma ho seguito, comunque c'erano, era un bel nero stasera, se non sovrastavano. Stasera era proprio più voci, diciamo, oltre al fatto che c'era un parecchio vento. Strano, non me ne avevo buttato l'antenna. Vabbè dai, ti ringrazio per il QSO, buon 144 quando lo farai, un QRT, e ci sentiamo le prossime, intanto ti vedo bello, bello cotto. Vabbè, buonanotte a tutti, anche agli ascoltatori, ciao a tutti, ci sentiamo, buonanotte. Tanto ha ricambiato al 100 e a tutti gli SWL, e a tutti quelli che sono in radioascolto, ciao ciao, buonanotte.